parola al primo relatore, professor Fausto Fonzi dell'Università di Roma, che parlerà sul periodo leoniano. Incaricato dalla fiducia degli organizzatori, che vivamente ringrazio, di riferire sulla storiografia relativa al cattolicesimo sociale e politico in Italia dell'età leoniana, chiedo anzitutto scusa per l'ignoranza della lingua tedesca, per le lacune e gli schematismi che non ho saputo evitare, rischiando eventuali accuse di rozzo semplicismo, spero di raggiungere almeno il risultato di una certa chiarezza che può forse risultare utile per il proseguimento dei lavori. Ho pensato anzitutto, e spero di non aver sbagliato, che in questa sede non interessasse tanto una completa esposizione delle diverse interpretazioni apparse più di 20 anni fa ed egregiamente esposte e criticate in rassegne assai note, ricordo particolarmente quelle di Scoppola, Verucci e Passeren, quanto una esposizione e discussione delle tendenze più recenti da parte di chi a quelle più antiche ha partecipato con viva passione. E per chiarire fin dall'inizio il significato delle osservazioni che farò circa gli studi apparsi in questi ultimi anni, non voglio nascondere che, pur accogliendo tante informazioni e tanti giudizi contenuti nelle opere pubblicate in più di un quarto di secolo, opere che hanno reso possibile una visione più profonda e più ampia di antichi problemi, ritengo ancora in parte valida l'interpretazione che dei movimenti cattolici italiani diedi nella mia tesi di laurea del 1948 e in mie pubblicazioni dell'anno successivo. Ritengo cioè ancora oggi che tutta particolare sia stata la condizione dei cattolici italiani fra il 1861 e il 1919, dando però importanza di svolta decisiva alla crisi di fine secolo al 1898, che soprattutto fra il 1874 e il 98, comprendendo cioè il primo e il secondo periodo del pontificato leoniano, gli orientamenti dei cattolici fossero notevolmente influenzati dal contrasto fra transigenti e intransigenti, che il ruolo storico di questi ultimi andasse finalmente rivalutato di fronte alla precedente ignoranza anche da parte della migliore storiografia. Queste convinzioni erano anche alla base di un mio volumetto del gennaio 53 relativo ai rapporti fra Stato e Chiesa dal 1870 al 1904, considerati in modo diverso da quello tradizionale. In quel tempo era stato pubblicato sull'argomento pure un volume di Gabriele De Rosa, al quale facevano seguito quelli di Giorgio Candeloro e di Giovanni Spadolini. A queste sintesi di carattere generale, anche se spesso polemicamente, gli studiosi dell'argomento ancora oggi si riferiscono. Esse contenevano senza dubbio delle interpretazioni molto diverse, assai distanti per esempio da quelle da me assunte erano le posizioni del marxista Candeloro, che non vedeva fondamentali dissensi tra il partito della Chiesa, comprendente tutte per lui tutte le correnti cattoliche, e quello della borghesia liberale, o del liberale Spadolini, che invece presentava come radicale e insanabile il conflitto fra cattolici tra il cattolicesimo e il liberalismo. Mentre più vicine, ma pur divergenti soprattutto nel metodo, erano quelle di De Rosa. Eppure, soprattutto alla distanza, tutte queste opere, ma principalmente quelle del Primo De Rosa e dello Spadolini, apparvero caratterizzate da uno stesso metodo, ancora legato alla tradizione storiografica, etico-politica e accentuatamente ideologizzante, con eccessiva tendenza a considerare in modo esclusivo ed enfatico l'opposizione intransigente. Proprio dalla discussione dei citati lavori, in una serie di rassegne apparse fra il 1954 e il 1956, venne l'invito a superare il livello ideologico-politico per approfondire sul piano propriamente religioso lo studio del mondo cattolico, della Chiesa in Italia come premessa necessaria anche alla comprensione degli indirizzi sociali e politici dei cattolici italiani. Ma negli anni 50 l'attenzione continuò a concentrarsi principalmente sul grande filone ortodosso dell'intransigentismo ufficiale, dell'opera dei congressi, cioè, e dell'impegno cristiano sociale come derivante da essa, soprattutto in un importante volume di Angelo Gambasin, del Partito Popolare Italiano come sbocco di un cammino dal quale in un primo tempo si giungeva ad escludere anche la prima Democrazia Cristiana, considerata marginale ed ereticale. Si restava ancora sul piano ideologico, politico ed organizzativo. L'interesse per i movimenti cattolici era nato certamente da un modo più largo e approfondito di guardare la storia d'Italia come storia di tutta la società italiana, ma lo studio delle forze profonde era solo progettato più che attuato concretamente. Indice importante di un mutamento di clima storiografico può essere però considerato il convegno di Bologna su aspetti della cultura cattolica nell'età di Leone XIII, del dicembre 1960, dedicato soprattutto alla storia delle idee religiose e filosofiche prima che sociali e politiche. Gli atti di quel convegno conservano, a mio parere, gran parte della loro validità, anche se i giudizi allora prevalenti sono oggi vivamente contestati e respinti. In quegli atti appariva la distinzione fra intransigentismo e transigentismo, rimanendo la posizione di Leone XIII al di sopra di tale distinzione e orientata verso il superamento di essa. E sebbene anche a Bologna, nel 60, venissero avanzate delle critiche ai limiti della direzione impressa alla Chiesa da quel pontefice, ricordo un intervento di Traniello sul sociologismo teocratico, e quelli di Candeloro e Manacorda sui progetti filoborghesi di Leone. Prevaleva, tuttavia, nel complesso una valutazione positiva circa le aperture culturali e quindi anche politico-sociali che permettevano di riconoscere nel pontificato leoniano le radici di recenti sviluppi democratici. Negli anni 60 si potevano poi riconoscere le tre tendenze storiografiche segnalate da Maria Luisa Trebigliani in una bella relazione rassegna al convegno toscano di San Marino del 1967. Mentre infatti lo studio della realtà ecclesiale diede luogo, da un lato, a importanti ricerche sul piano religioso-culturale, soprattutto coi lavori di Scoppola sul modernismo, ma anche di Traniello sui rosminiani o della Confessore sui transigenti, e dall'altro lato a un'indagine sociologica sulla storia della pietà e dell'organizzazione ecclesiastica, soprattutto per merito di De Rosa. I movimenti cattolici vennero sempre più considerati, superando ogni angusta visione settoriale, come un elemento della complessiva storia politico-sociale italiana. I frutti di questa triplice tendenza sono stati certamente abbondanti e in alcuni casi hanno dato luogo a un convergere di interessi su alcuni settori già trascurati ed ora invece sempre più conosciuti grazie appunto alle convergenti ricerche sul piano religioso-culturale, su quello sociologico e infine su quello della dinamica politica della Terza Italia. Mi riferisco in particolare al fiorire di interessantissimi studi sulla corrente dei conservatori nazionali, ma si vanno moltiplicando lavori che riguardano anche i diversi settori dell'intransigentismo, del cattolicesimo sociale e della democrazia cristiana. Si tratta di contributi interessanti che ci permettono ora di andare oltre le più semplicistiche distinzioni fra le grandi correnti cattoliche, attraverso un'indagine a volte finissima sulle sottocorrenti e i diversi gruppi che le componevano, oltre che su notevoli personalità di dirigenti, sulle relazioni palesi e occulte anche fra tendenze formalmente contrapposte, per una osmosi continua di uomini e di idee, sui rapporti fra i cattolici e i vari elementi e settori della società civile italiana. Il mondo cattolico, sia nella componente ecclesiastica che in quella laicale, è stato quindi considerato sempre più nella sua complessità, in una visione più ampia, così da comprendere, pur nella distinzione, tutte le correnti vive nell'età leoniana. Significativamente positivo mi sembra, ad esempio, il fatto che la Presidenza dell'Azione Cattolica Italiana abbia voluto celebrare il centenario delle proprie origini con la pubblicazione di studi riguardanti laici cattolici di orientamento diverso, non soltanto sul piano temporale, ma pure sul terreno religioso e culturale, considerando quindi, accanto a Paolotti e intransigenti, anche uomini come Guasti, Da Passano e Gallarati Scotti. Tra gli studiosi, prevalentemente giovani, che hanno partecipato a questo fervore di ricerche, si è venuta delineando una certa tendenza a ridurre sempre più l'ambito e i frutti dell'intransigentismo clericale, fino a negare ad esso, come vedremo, non soltanto una vitalità corposa ed efficace, ma l'esistenza medesima. Si afferma quindi che intransigenti furono soltanto coloro che aderirono all'opera di congressi, ma non tutti, perché tali non sarebbero stati i toscani, i bolognesi o i romani, né gli appartenenti alla gioventù cattolica e neppure quelli dell'Unione per gli Studi Sociali, cioè Toniolo e lo stesso vicepresidente dell'opera Medolago Albani. Né vi furono, sembra, vescovi intransigenti, se tali non furono, come ci attestano alcuni biografi, né il Bonomelli degli anni 70, pur accanito infallibilista e martello dei preti liberali, né il Corna Pellegrini di Brescia. Gallina e Fappani possono infatti ammettere per essi l'appellativo di intransigenti solo ponendolo fra molte virgolette. Questa tendenza è stimolata, a mio parere, soprattutto da due fondamentali preoccupazioni ideologiche e anche politiche, molto spesso ben distinte, ma in qualche caso tendenti ora a ricongiungersi. Da un lato, l'aspirazione più o meno conscia a nobilitare e a liberare da macchie le origini e la natura stessa del movimento dei cattolici democratici, da collocare, come suol dirsi, al di là e non al di qua della rivoluzione liberal-borghese, al fine di mostrarne la modernità e giustificarne la presenza. Dall'altro lato, invece, proprio l'opposto desiderio di eliminare tale presenza, negando che sia mai esistita una posizione di cattolici autonoma rispetto alle classi dominanti e tale da permettere il riconoscimento di un certo progressismo al movimento cattolico italiano. Non soltanto per la sua priorità cronologica, ma soprattutto per l'importanza della produzione scientifica derivatane, va considerata anzitutto l'aspirazione a ricondurre le correnti sociali e democratiche dei cattolici italiani entro l'alveo del cattolicesimo liberale, dal quale principalmente sarebbero scaturite e dal quale avrebbero tratto i loro connotati più positivi. Quell'aspirazione ha soprattutto alimentato il fiorire di studi sulla Lega Democratica Nazionale e principalmente quelli notevoli di Pietro Scoppola, che ha esaminato la presenza e il peso dell'eredità cattolico-liberale, soprattutto però per l'epoca in cui la contrapposizione fra intransigenti e transigenti era già tramontata in seguito alla crisi del decennio 1894-1904. Riguardano invece l'epoca leoniana altre ricerche, come ad esempio quella di Camillo Brezzi su Stanislao Medolago Albani, che, a giudizio suo e di Scoppola, sarebbe con Toniolo estraneo all'intransigentismo e prossimo invece al cattolicesimo liberale, come se l'intransigentismo italiano fosse caratterizzato solo da un chiuso reazionarismo controrivoluzionario tipo Vogelsang, Lothar Dupin, ed escludesse quel cattolicesimo sociale moderato e riformista che era incoraggiato dallo stesso pontefice. All'origine di questa corrente interpretativa sta, se non sbaglio, il presupposto di una permanente contrapposizione, a partire almeno dal Settecento, di due tradizioni e di due antitetiche mentalità, quella dei cattolici intransigenti e quella dei cattolici liberali, ossia di cattolici chiusi e di cattolici aperti. La prima, destinata per la costituzionale chiusura e una certa vischiosità istituzionale alla sterilità o a generare esclusivamente delle velleità reazionarie. La seconda, invece, pronta sempre a cogliere i segni dei tempi in una visione cristiana e realistica, perennemente fertile, quindi, e foriera di progresso intellettuale e sociale in grazia della propria disponibilità e sensibilità religiosa. L'insufficienza di tale rigido schema dualista, largamente adottato per quanto riguarda la Chiesa e il mondo cattolico nell'età moderna e contemporanea, è stata denunciata, a mio parere con buon fondamento, da Jean-Marie Mayer in un articolo pubblicato sulle Annales del 1972. In tale articolo e in un altro recentissimo di Émile Poulain sulla Revue d'Histoire Ecclésiastique, l'attenzione si volge soprattutto al periodo che qui ci interessa, cioè all'età leoniana, alle origini del cattolicesimo sociale e della democrazia cristiana. Capovolgendo un vecchio giudizio ancora largamente diffuso nella storiografia francese e denunciato da Jean-Baptiste du Rossel al Congresso Storico Internazionale di Roma del 1955, Mayer e Poulain, partendo anche da un'importante opera di Paul Druler, o Drulers, anziché vedere nella democrazia cristiana la terza ondata del cattolicesimo liberale, tendono a insistere sulle sue origini più intransigenti, ma anche sulla persistenza della mentalità integralista nelle successive incarnazioni della democrazia cristiana nei diversi paesi. Va osservato però che mentre Poulain, sulla cui opera torneremo, resta fedele allo schema dualista, collocando la democrazia cristiana in una mai estinta tradizione di chiusura intransigente, fondamentalmente teocratica e perciò clericale e intollerante, Mayer segue con maggiore attenzione lo sviluppo delle idee religiose, politiche e sociali e il maturarsi entro le correnti democristiane non soltanto delle aperture politico-sociali della tendenza riformista del cattolicesimo sociale, ma pure di un riformismo religioso mirante a una democratizzazione della Chiesa. L'eredità integralista, con denuncia della società dei consumi e dell'industrialismo, disprezzo e ignoranza del ruolo dello Stato, moralismo, soprannaturalismo storico, identificazione di un gruppo sociale con il popolo eletto, si potrebbe trovare piuttosto, secondo Mayer, in correnti marginali e potremmo anche dire contrarie e opposte alla democrazia cristiana, degli integristi di destra e dei contestatori di estrema sinistra. Certo è, possiamo aggiungere, che dalla matrice cattolica antiliberale e intransigente sono anche scaturite in diversi paesi delle tendenze democratiche, fautrici non soltanto di governi popolari e di riforme sociali, ma di libertà e di autonomia di fronte all'autorità ecclesiastica. Mentre dal cattolicesimo liberale provengono anche individui e gruppi che sono diventati fautori non soltanto della più dura conservazione sociale, ma pure di forme illiberali e clericali. Per ciò che riguarda poi la seconda tendenza storiografica alla quale mi sono riferito, quella derivante dal desiderio esplicitamente politico di negare financo l'esistenza di un'opposizione cattolica più o meno intransigente, va detto che essa deve essere inquadrata nel clima della recente insofferenza per le tradizionali impostazioni degli studi sui movimenti cattolici. Insofferenza accentuatasi negli ultimi 2 anni. Tale insofferenza, più vivace in alcuni giovanissimi studiosi, ma presente anche in altri più anziani, ha raggiunto delle punte più accentuate soprattutto in 2 direzioni, originariamente distinte, ma ora sempre più complementari e sfocianti in un giudizio unico, decisamente negativo circa l'eredità tramandata dal pontificato leoniano all'odierno mondo cattolico. Eredità caratterizzata soprattutto, si dice, da 2 tendenze. Quella gerarco-ierocratica e autoritaria e quella mirante alla conservazione economico-sociale. Tendenze perennemente confluenti in un atteggiamento compattamente ostile ad ogni sviluppo democratico, perché dettato esclusivamente dalla sete di potere e da interessi economici, rimanendo estranei o assolutamente marginali e secondari quelli religiosi. Vero è che tale insofferenza ha dato luogo soprattutto a indagini e a giudizi sul nostro secolo. L'attenzione degli storici si è infatti generalmente spostata dall'Ottocento al Novecento, dall'età di Leone XIII a quella di Pio X, Pio XI e Pio XII, del clerico moderatismo e della dittatura fascista. Ma si deve notare che la chiave di volta delle nuove interpretazioni sta in un giudizio pesantemente negativo sull'opera e sul pontificato di Papa Pecci, i cui indirizzi avrebbero avuto gravi conseguenze per la Chiesa e in particolare per il mondo cattolico italiano e per la storia contemporanea del nostro paese. Alle indagini recenti e ai giudizi relativi soprattutto al clerico moderatismo, chiedendo scusa a Traniello, devo quindi riferirmi, perché quelle indagini e quei giudizi avrebbero, a parere di molti, rinnovato completamente tutto il settore di studi sui movimenti cattolici italiani e certamente possono stimolare dei reali progressi nel nostro campo di ricerca. Alla denunciata crisi degli studi sui movimenti cattolici post-unitari avrebbe posto rimedio e fine con il superamento di un loro preteso carattere autosufficiente e separato, soprattutto una recentissima tendenza che definirei neomarxista, perché da un lato, sebbene rappresentata prevalentemente da giovani di formazione cattolica, sembra richiamarsi ora soprattutto alle impostazioni di Marx, e dall'altro lato rivendica un carattere di novità nei confronti dei pochi studiosi marxisti, in prima linea Candeloro, che si erano in passato occupati dell'argomento. A Candeloro, che sulla scia di Togliatti e di Alatri aveva principalmente insistito nel 1953 e poi nel 60 con Manacorda sul grande piano di Leone XIII per la conversione di tutto il mondo cattolico dalla causa della feudalità a quella della borghesia, I giovani rimproverano soprattutto la formazione idealistica e quindi anche un metodo sostanzialmente vicino a quello della storiografia etico-politica, cioè soprastrutturale, mentre essi auspicano lo sviluppo di ricerche strutturali circa i rapporti tra il mondo cattolico e la realtà economica italiana. Ritengono anzi di avere essi soltanto finalmente esaminato le cause profonde, reali dello sviluppo storico e di avere già dato contributi tali da consentire delle valide conclusioni di carattere generale. Mi sembra però che tali conclusioni siano in complesso ricalcate ancora sui presupposti marxisti già enunciati da Togliatti e sviluppati nel dopoguerra soprattutto da Candeloro, che aveva considerato, come Latri, naturale e inevitabile l'incontro fra le due ali della borghesia italiana. Però, se ho ben compreso, ora si vuol notare che tale incontro sarebbe avvenuto inizialmente a due diversi livelli, poi confluiti nel clerico moderatismo dell'età piana e giolittiana, cioè nelle intenzioni e nei progetti realizzati immediatamente solo fuori d'Italia di Leone XIII, ma anche e soprattutto nella quotidiana concretezza delle collaborazioni e delle solidarietà clerico-moderate manifestatesi in seno alle strutture a partire dal 1887, cioè dalla prima formazione del blocco protezionista. E proprio nella valutazione della svolta del 1887 mi sembra che possa riconoscersi una differenza tra l'impostazione paleomarxista e quella più economicistica dei neomarxisti. Se infatti per Candeloro il 1887 segnava il declino del clerico moderatismo e l'inizio della riscossa intransigente, per i giovani autori di saggi recenti, quell'anno che vede l'affermarsi in Italia della politica protezionista e, almeno secondo alcuni, il decollo della grande industria, segnerebbe invece sul piano strutturale proprio l'inizio del clerico moderatismo, ossia dell'incontro fra i cattolici non più intransigenti e la borghesia liberale. Parlando qui di recenti saggi di giovani studiosi, intendo riferirmi particolarmente a un articolo di Mario Giuseppe Rossi, Movimento Cattolico e Capitale Finanziario, appunti sulla genesi del blocco clerico moderato, apparso in Studi Storici nel 1972. Il Rossi, autore già di un lavoro sul popolare Francesco Luigi Ferrari edito dalle Democristiane 5 Lune, insiste appunto sulla priorità dell'incontro strutturale sul terreno, cioè, delle attività economiche rispetto agli accordi elettorali, amministrativi, locali e poi politici nazionali fra cattolici intransigenti e liberali. A suo giudizio, mentre la classe dirigente papale andava incoraggiando l'intransigentismo con sempre più accentuate venature sociali e democratiche come arma di ricatto per piegare al compromesso la borghesia laica, Di fatto quest'ultima e la borghesia cattolica si sarebbero creati, tra quest'ultima e la borghesia cattolica, si sarebbero creati per la prima volta sul terreno del nascente grande capitalismo italiano dei legami e delle solidarietà che avrebbero poi necessariamente portato anche all'incontro elettorale politico e infine alla conciliazione. Tale affermazione è senza dubbio accompagnata nel citato articolo dall'indicazione di fonti e di eventi che dimostrerebbero la validità dell'assunto. Ma in verità non mi sembra che si possa già parlare di una ben fondata svolta interpretativa, perché qui non troviamo ancora una documentazione abbastanza solida. Non è possibile ora entrare in molti particolari e domandarsi anzitutto se davvero erano assenti precedentemente delle confluenze sul terreno economico di liberali e cattolici nell'ambito naturalmente di un'Italia ancora prevalentemente agricola. Ma per dare concretezza al discorso voglio riferirmi almeno ad un episodio citato da Rossi, non soltanto perché sono da questi chiamato personalmente in causa, ma perché il dissenso può emergere più chiaramente quando si parte da una comune premessa. Infatti Rossi afferma che avrei fondatamente ravvisato nel contratto clerico-moderato per le elezioni amministrative milanesi del 10 febbraio 1895 l'inizio vero e proprio dell'alleanza clerico-moderata su scala più generale. Ma poi carica quell'accordo di un significato che le fonti non permettono di attribuirgli, notando che esso ebbe significativamente fra i suoi artefici l'industriale cotoniero Ernesto De Angeli, paternalista, conservatore e cristiano all'Alessandro Rossi, come se il contratto fosse stato concluso per difendere gli interessi economici degli industriali milanesi. In realtà, molti furono i moventi di ordine religioso, ideologico, economico e sociale, ma soprattutto politico e amministrativo, che portarono, come cercai di mostrare su base documentaria, alla conclusione del contratto e dalla vittoria sugli oppositori, fra i quali figuravano i più potenti banchieri, commercianti e industriali di Milano, miranti a fare sindaco il presidente della Cassa di Risparmio. Che l'incontro clerico-moderato a livello politico nazionale fosse stato preceduto e preparato da molti accordi amministrativi locali, a partire da quello di Milano, era fatto già noto agli studiosi. Che tali accordi si fondassero esclusivamente o prevalentemente sulla forza di legami economici già stretti fra cattolici intransigenti e liberali, non mi sembra qui sufficientemente provato, perché i dati che Rossi fornisce si riferiscono a tempi successivi al febbraio 95, anzi al 98, e diventano abbondanti solo per il nostro secolo, soprattutto a partire dal 1904. La tesi della priorità dell'incontro a livello strutturale non sembra perciò dimostrata e resta solo eventualmente come un'ipotesi di lavoro per più fortunati ricercatori. Utili sono invece per gli studiosi del periodo successivo le abbondanti notizie sulla collaborazione in campo economico fra cattolici e liberali nell'età di Giolitti e di Pio X. Notizie che certamente contribuiscono a documentare i rapporti fra movimenti cattolici e sviluppo capitalistico italiano. Penso particolarmente agli investimenti delle banche cattoliche nell'industria. Ed anche a spiegare alcune delle difficoltà incontrate poi dalle correnti novatrici e riformatrici del Partito Popolare Italiano. Ma questo, se non sbaglio, è un altro discorso. E merito di questo e di altri saggi analoghi d'avere avanzato un pressante invito a considerare i movimenti cattolici anche in rapporto allo sviluppo capitalistico industriale italiano. Invito accompagnato in diversi casi da utili contributi di informazione in tal senso. Il principale difetto di essi sta forse nella pretesa di spiegare tutto con motivi economici e di classe. Infatti Rossi tributa generosi riconoscimenti ai numerosi studi sulla storia ecclesiale italiana, anche se esclusivamente per la denuncia di aspetti negativi del mondo cattolico, le carenze di elaborazione, autonomia, originalità delle forze politiche cattoliche, il continuo intrecciarsi di insufficienze culturali e religiose a finalità conservatrici, politicamente e socialmente nella lotta antimodernista, i persistenti limiti di arretratezza e di immaturità politica della stessa esperienza del Partito Popolare. Ma poi finisce con non dare alcun peso a quegli studi e dai fattori spirituali e ideologici, perché solo altrove sarebbero a suo giudizio le cause profonde di ogni vicenda umana. Le affermazioni di Rossi circa il secondo e soprattutto circa il terzo periodo del pontificato leoniano, cioè relative agli anni 1887-1903, sono estese da altri giovani o giovanissimi studiosi anche al periodo precedente, che sarebbe stato caratterizzato anch'esso da una sostanziale omogeneità e collaborazione non solo fra cattolici transigenti o clerico moderati, come essi preferiscono chiamarli, e intransigenti, ma anche fra questi ultimi e tutto il fronte della borghesia liberale. Questa tendenza è particolarmente rappresentata ed espressa dagli atti di un convegno su movimento cattolico e sviluppo capitalistico nel Veneto, svoltosi a Padova nel 73. Tutti i relatori di quel convegno affermano una propria sostanziale omogeneità politica e storiografica. Ma qui mi riferirò soprattutto ai saggi di Silvio Lanaro e di Emilio Franzina, che, muovendo, mi sembra, da identiche posizioni ideologiche, affrontano con coerenza un discorso di carattere generale, non limitato cioè alla regione veneta, sulla storia e la storiografia dei movimenti cattolici italiani al tempo di Leone XIII. La storiografia è vista dai padovani come un'espressione immediata di finalità politiche e perciò, riguardo al nostro tema, soprattutto in relazione ai recenti orientamenti politici dei cattolici italiani. Anche la quasi totale assenza di studi marxisti sul mondo cattolico veneto sarebbe esclusivamente un effetto, prima del centro-sinistra e poi dell'aspirazione al compromesso storico, mentre va inquadrata in una ben più ampia lacuna, essendo ben pochi gli scritti di ispirazione marxista sulla storia di tutto il mondo cattolico italiano apparsi nei 20 anni successivi alla pubblicazione del volume di Candeloro. La spiegazione di tale assenza, in epoca in cui la storiografia marxista veniva affermandosi in Italia, può risiedere principalmente, a mio parere, nella difficoltà incontrata da chi tentava di spiegare con puri motivi classisti l'esistenza di un movimento cattolico intransigente. E nel recente sviluppo di studi marxisti quella difficoltà non è in verità superata, ma è piuttosto aggirata da quanti spostano il discorso al Novecento o negano addirittura che sia mai esistita una opposizione cattolica in Italia. Quest'ultima, infatti, è la tesi dei giovani padovani, che, se non sbaglio, si differenziano quindi da Rossi e compagni, diciamo, soprattutto per ciò che riguarda l'Ottocento. Difatti, mentre Rossi affermava l'esistenza di un incontro strutturale fra le due ali della borghesia italiana soltanto a partire dal 1887 e soprattutto dopo il 1898, quando cioè la contrapposizione fra transigenti e intransigenti è già entrata definitivamente in crisi, Lanaro e Franzina tendono invece ad anticipare quell'incontro, cioè a negare che sia mai esistita un reale contrasto fra le due correnti cattoliche, che sia mai esistita una opposizione cattolica al regime liberal borghese e ai governi italiani post-unitari. Si assiste quindi ora a un vero capovolgimento rispetto alle interpretazioni del Primo De Rosa e dello Spadolini, che, accogliendo la rivalutazione del movimento cattolico intransigente, avevano accentuato le distinzioni, manifestando la tendenza a ridurre tutto il mondo cattolico all'intransigentismo e ad escludere ogni possibilità di incontro fra cattolicesimo e liberalismo. Lanaro e Franzina considerano invece l'opposizione cattolica come una invenzione politica dell'ultimo dopoguerra, come un mito, un travestimento verbale e di facciata, come uno di quegli idolafori che vanno sollecitamente respinti, non tanto perché infondati e falsi, quanto perché tali da ostacolare sul piano politico i progetti di un frontismo del tutto privo di chiusure a sinistra. Accentuando più antiche e già rievocate tendenze a minimizzare i contrasti fra transigenti e intransigenti, fra cattolici e liberali, come superficiali e apparenti, quali maschere ideologiche di una sostanziale solidarietà di classe, i padovani mirano infatti a negare l'esistenza di una tradizione cattolica antiborghese che dall'intransigentismo giunga al cattolicesimo sociale e alla democrazia cristiana. Ridotti qui tutti come artifici polemici e strumentali per la conquista di una posizione di egemonia per il clero entro il blocco dell'ordine. E da considerare invece con particolare attenzione i transigenti conservatori nazionali, qui spesso indicati come clerici moderati, alle cui salde posizioni di classe dovrebbero collegarsi anche quelle del cosiddetto intransigentismo e della pretesa opposizione cattolica. Utilizzando i lavori già dedicati ai conservatori da Ornella Confessore, Glauco Licata e Giuseppe Ignesti, ma negando significato e importanza al riformismo religioso che soprattutto la Confessore aveva positivamente valutato, i padovani concentrano la loro attenzione sulle preoccupazioni economico-sociali dei conciliatoristi. La Confessore aveva documentato il finanziamento della transigente rassegna nazionale da parte di quella notevole personalità di industriale protezionista e colonialista che fu Alessandro Rossi. Ed ora, su questa figura, alla quale è dedicato un libro di Lucio Avagliano, si concentra l'attenzione di storici, economisti e sociologi, come ad un tipico esponente dell'industrialismo italiano e promotore instancabile anche a livello parlamentare di una politica protezionista. Minore attenzione si rivolge invece all'opera e al pensiero di uno Stefano Jacini, pur interessante non solo come pensatore politico, ma come studioso di economia, o a quei rosminiani, rilevanti solo a un livello sovrastrutturale, ma considerati pur degni di studio, come Jacini, da Francesco Traniello. Aprendo una parentesi, vorrei qui notare come nei recenti studi sui cosiddetti clerico-moderati, e già l'uso tanto esteso di questo termine anche a proposito dei conservatori nazionali mi sembra generare gran confusione, si tenda a legare insieme sotto una sola etichetta uomini diversissimi e attestati su posizioni che devono considerarsi ben lontane fra loro, se non antitetiche, qualora si considerino le alternative di quel tempo e non quelle di oggi. Quando leggo, ad esempio, il nome di Prinetti nell'elenco dei più accaniti protezionisti, o quello di Colombo fra i colonialisti, ho l'impressione che si voglia abbandonare ogni criterio di esame paziente della realtà storica. E sotto il segno della confusione, nonostante alcune valide pagine, mi sembra che rimanga nel suo complesso anche il volume di Luigi Ganapini sul nazionalismo cattolico, che vedo lodato per l'originalità dell'impostazione. Senza dubbio i transigenti miravano a preparare la conciliazione, soprattutto sul piano delle amministrazioni locali studiate da Belardinelli e della politica estera e coloniale. Ma ciò non può indurre, a mio parere, ad anticipare incontri e collaborazioni trascurando fratture profonde e acuti contrasti. Dichiarate preoccupazioni politiche muovono tutti questi autori a negare l'esistenza di una opposizione cattolica, al fine di ricondurre tutto il mondo cattolico postulitario nell'ambito di una graduale adesione all'ordine borghese, anche dei più ostinati nostalgici del regime feudale, nell'ambito cioè di un conservatorismo che avrebbe fondamentalmente caratterizzato anche in seguito la presenza dei cattolici nella vita italiana. Ma per chi crede ancora in quella presunta distinzione, che non è separazione, fra storia e politica, tra analisi culturale e impegno operativo, sulla quale ironizzano quei giovani, resta sempre il problema di verificare quanto viene asserito e in particolare se realmente nei primi decenni postunitari, nel paese legale come nel paese reale, esistessero altre consistenti forze di opposizione. Se ad esempio per le elezioni politiche del 1865 il governo ordinava ai prefetti di combattere soltanto le candidature di cattolici, reazionari o liberali che fossero, come le uniche veramente pericolose per il regime, o nel 1866 utilizzava soprattutto contro cattolici la legge Crispi sul domicilio coatto, si preoccupava forse soltanto di fantasmi, di mulini a vento? E quando più tardi si delineano anche altre forze di opposizione nel Parlamento e nel Paese, si può dire che sempre inflessibile e senza compromessi è la loro lotta in confronto alle incertezze e ai cedimenti che avrebbero manifestato i cattolici intransigenti? Indubbiamente, per chi nella storia vuol cogliere soltanto dei conflitti economici e sociali fra classi contrapposte, sarà difficile ammettere l'esistenza di una opposizione cattolica, religiosa, ideologica e politica che non sia semplicemente una semplice maschera prima della reazione feudale e poi della conservazione borghese, ma per chi voglia pazientemente interrogare le fonti del secondo Ottocento, il problema sarà invece quello di spiegare come uomini, pur appartenenti alla stessa classe sociale e con identici interessi economici, si siano scontrati a lungo e con tanto accanimento sul piano delle idee come su quello politico. Sarà quello di cercare le radici profonde di quei contrasti anche al di fuori del terreno economico-sociale, soprattutto considerando un'epoca, l'Ottocento, nella quale i motivi spirituali, culturali e politici ebbero certamente gran peso. E ciò vale naturalmente anche all'interno del mondo cattolico. Mi domando infatti se costituisca un reale progresso storiografico il sostituire alle distinzioni sempre più precise e sfumate raggiunte dalla storiografia specialistica nell'ultimo quarto di secolo la precedente indistinzione e confusione tra cattolici di diverso ed anche opposto orientamento. Questo mi chiedo, per esempio, leggendo in una recentissima storia d'Italia un profilo di storia religiosa italiana scritto da Carlo Ginzburg che, per indicare il pensiero dei cattolici intransigenti più reazionari, cita un'opera di Cesare Cantù, significativamente dedicata ad Alessandro Rossi. Il marxista comunista Paolo Alatri nel 1949 scriveva già di cattolici ortodossi, cattolici liberali e liberali laicisti come di tre colonne di un medesimo corpo d'armata. Ma ora si confondono e si fondono le tre colonne in un solo indifferenziato fronte conservatore. Si giungerà davvero per questa via ad una migliore comprensione storica dell'Ottocento? Di fronte all'economicismo classista, credo insomma che si debba distinguere tra una concreta, validissima esortazione a studiare i movimenti cattolici anche in relazione allo sviluppo economico italiano e la richiesta dell'accettazione di un già scontato sbocco nei rigidi schemi hegeliani di Marx. Certamente la storiografia sui movimenti cattolici italiani raramente aveva considerato gli aspetti economici e con lentezza aveva meditato sulla discussione di Romeo, di Geschenkron, di Are e di altri ancora sulle fasi e le forme dello sviluppo capitalistico industriale in Italia. Un esame di coscienza al riguardo hanno quindi compiuto negli ultimi anni gli studiosi cattolici, quelli ad esempio riuniti dal compianto Mario Romani in due convegni a Venezia e Firenze, e soprattutto gli studiosi marxisti, che, nonostante i precetti della loro metodologia, avevano a lungo trascurato il concreto approfondimento della nostra storia economica. Non convincono invece le pretese conclusioni del lavoro appena iniziato, perché i giudizi fino ad oggi espressi o sono troppo generici e derivanti da preconcetti più che da concrete ricerche, o sono troppo legati a particolari situazioni locali. Vero è che una interpretazione di tutto il periodo leoniano, fondata esclusivamente o prevalentemente sopra uno schema economico-sociale e classista, diverrebbe plausibile qualora si accettasse in pieno, anche per l'Ottocento, un'osservazione di Gianni Sofri, che ha posto in dubbio l'ispirazione religiosa dei movimenti sociali e politici dei cattolici italiani nel Novecento, dominati da ben altre e profane preoccupazioni, ma utilizzanti l'etichetta confessionale per ottenere adesioni popolari. È un'osservazione che si può in larga parte accogliere per quanto riguarda il nostro secolo, nel quale di certo la professione di fede cattolica ha potuto anche fruttare a molti ricchezza e potere, a patto però di riconoscere anche le preoccupazioni spirituali di Sturzo, di De Gasperi e di tanti altri dirigenti cattolici, e di non volere spiegare anche i movimenti religioso-culturali in chiave classista, come si tenta di fare oggi, con dubbi risultati per quanto riguarda il modernismo. Non credo comunque che possa estendersi anche al secolo scorso l'affermazione di Sofri. Certamente anche in quel tempo gli interessi profani, grandi e piccoli, economici o di potere, esercitarono una loro pressione sui cattolici transigenti e intransigenti. Ma è possibile negare quanto le fonti largamente ci mostrano, cioè il vivo senso religioso e il disinteresse di tanti seguaci e capi dei movimenti cattolici? Angusto e formalistico poteva essere il modo loro di intendere la partecipazione alla vita della Chiesa, dei cui aspetti più esterni e istituzionali forse troppo si preoccupavano, ma questo non può indurci a vederli soltanto come strumenti più o meno consapevoli di egoismi di classe. Se da un lato nella recente storiografia italiana si pone l'accento sui legami fra la direzione ecclesiastica e le forze sociali più reazionarie o conservatrici, dall'altro lato si richiama l'attenzione sulla continuità dell'indirizzo gerarchico, soprattutto nel senso dell'accentramento curiale e dell'autoritarismo ierocratico, sempre più accentuatisi nell'età moderna, ma pervenuti alle più pesanti forme repressive, soprattutto in Italia, tra il pontificato di Pio IX e quello di Pio XII. La più ricca letteratura sullo spirito e sulle procedure autoritarie della Curia Romana è certamente quella relativa all'epoca dell'antimodernismo piano, dalle opere di Émile Poulain a quelle di Lorenzo Bedeschi o di Maurizio Guasco. Ma ora il pontificato di Pio X, dietro il quale appare l'ombra dell'integrista Benigni, non è più considerato, neppure sotto questo aspetto, come una parentesi tra due pontificati leoniani. È solo il tempo in cui si sono largamente realizzati anche in Italia i progetti di Leone XIII. Le tendenze favorite da questo pontefice, e già considerate da tanti studiosi come delle significative manifestazioni di apertura culturale, di progresso politico-sociale, vengono ora indicate generalmente come delle maschere demagogiche e strumentali di un meditato piano ricattatorio e reazionario. Si è già detto come gli studi sul cattolicesimo sociale e sulla democrazia cristiana, quando non tendono a ricollegare questi fenomeni al cattolicesimo liberale, finiscono per insistere, come nel recente articolo di Poulain, sul carattere integralistico di quei movimenti, che, già considerati come indici di apertura progressista del pontificato leoniano, costituirebbero invece soltanto l'altra faccia, più demagogica, dell'integrismo cattolico, sempre utilizzabile dalla Curia Romana non soltanto per il rafforzamento del proprio potere in seno alla Chiesa, bensì anche per alleanze con le forze economico-sociali più conservatrici. Il più recente e coerente discorso in questo senso è stato svolto dal medioevista Giovanni Miccoli in un denso contributo alla storia d'Italia Einaudi. Recuperando e assimilando da un lato alcuni motivi centrali della storiografia liberale, crociana e spadoliniana, e dall'altro lato quelli della storiografia marxista più antica e recente, Miccoli risolve infatti tutta la storia del mondo cattolico italiano dell'ultimo secolo nell'incontro fra l'illiberale Chiesa cattolica, ridotta nell'ambito della più autoritaria ierocrazia della Curia Romana, e il conservatorismo della borghesia, prima liberale, poi fascista, infine democristiana. Momento centrale di tale processo è per Miccoli il pontificato di Leone XIII, che sulla base del sillabo e delle definizioni del Concilio Vaticano per primo avrebbe elaborato un vasto piano di riconquista teocratica della società europea mediante l'alleanza con la dominante borghesia in funzione antisocialista, piano realizzato poi per l'Italia dal successore Pio X. Alla tradizionale contrapposizione, per altri versi già precedentemente criticata, fra papi politici e papi religiosi, alternantisi sul soglio di Pietro, si viene quindi sostituendo l'idea della continuità, almeno per il secolo che va da Pio IX a Pio XII. Miccoli scrive infatti di una coerente e sostanziale continuità dell'indirizzo politico delle gerarchie ecclesiastiche secondo una linea autoritaria e ierocratica. Leone quindi avrebbe instaurato, partendo dall'opera del predecessore, un sistema di integralismo curialistico, mirando alla riconquista della società mediante il ralliement dei cattolici agli interessi della di classe della borghesia. Avrebbe cioè gettato le fondamenta di un incontro, anzi di un abbraccio mortale, perché soffocatore di ogni germe di progresso culturale e democratico in Italia. In tale prospettiva, l'orientamento leoniano sarebbe all'origine del clerico moderatismo e poi della collaborazione fra cattolici e fascisti. Integrismo e conservatorismo borghese sarebbero semplicemente due aspetti complementari, due facce di una sola triste realtà dominante la vita italiana nell'ultimo secolo. Come ho già detto, la recentissima storiografia si occupa soprattutto del clerico moderatismo e del clerico fascismo, quali momenti centrali di un processo ancora in atto, ma la radice del ricorrente fenomeno di collaborazione clerico-borghese risiederebbe nella scelta compiuta da Leone XIII, scelta del resto si aggiunge inevitabile per la costituzionale vocazione conservatrice della Chiesa Cattolica. Dal Papa, cioè, ritenuto ormai responsabile non soltanto della formulazione sistematica su fondamento neoscolastico di una visione integralista, cioè autoritaria e intollerante, della società umana, ma pure di una ben calcolata politica di adesione agli interessi della borghesia e perciò della reazione religioso-culturale, economico-sociale e politica nell'età giolittiana, negli anni venti e nell'ultimo dopoguerra. Leone XIII avrebbe insomma sganciato il mondo cattolico dalla tradizionale solidarietà con la reazione feudale per ancorarlo alla causa dei nuovi potenti al fine di ottenere il trionfo di una Chiesa gerarchica e repressiva negatrice di libertà e di giustizia. Meri strumenti tattici sarebbero state perciò quelle correnti di rinnovamento religioso-culturale e di progresso politico-sociale in senso antiborghese e democratico da Leone XIII tollerate o promosse, ma in partenza già condannate dallo stesso pontefice alla sterilità e alla morte, perché concepite soltanto come arma di ricatto per vendere più caro il già deciso appoggio alla classe dei padroni. Non credo che tutti gli studiosi del periodo leoniano e in genere della Chiesa cattolica e di quella italiana in particolare, possano accettare in pieno come definitiva la recentissima interpretazione qui prospettata, che tra l'altro renderebbe umanamente inesplicabile anche tanta parte della realtà contemporanea. Senza dubbio, da questo e da altri scritti recenti, siamo invitati tutti all'autocritica e a riconoscere il peso di ricorrenti connubi fra le aspirazioni ierocratiche e le profane potenze conservatrici, connubi che hanno spesso frenato e anche soffocato le aspirazioni a maggiore libertà e a maggiore giustizia nella Chiesa, nella società e negli Stati. Ma lo storico, ci sembra, non deve di certo privilegiare, ma neppure deve ignorare la presenza di quelle aspirazioni e delle correnti novatrici, anche se timide, anche se minoritarie, anche se condizionate dalle forze del passato. Del resto, se il pontificato di Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II segnano una frattura e una novità anche sul piano della storia universale, si può pensare che tale novità non abbia alcuna radice nella precedente storia della cattolicità italiana ed in particolare del periodo leoniano? Molto lavoro deve essere senza dubbio ancora compiuto per una migliore conoscenza di tutta la storia religiosa italiana, colmando soprattutto il distacco ancora esistente fra le indagini a livello culturale e quelle di tipo sociologico, per una visione unitaria della vita religiosa e della società civile. In particolare, si devono compiere delle ricerche che potranno svilupparsi con l'auspicabile accessibilità di tutti gli archivi ecclesiastici, non soltanto sulla personalità e la biografia di Leone XIII, ma sull'ambiente di curia a lui più vicino, sul quale abbiamo ben pochi contributi, tra i quali ora il volume di Weber, e sull'episcopato italiano fra i due secoli. Si tratterà di analizzare le diverse fasi del pontificato, quella del 1878-87, la seconda fra l'87 e il 98, l'ultima infine fra il 98 e il 1903, ma pure di considerare nel complesso l'eredità di quel pontefice e dell'età leoniana, verificando per esempio se Papa Pecci, personalmente legato, come ha notato Aubert, ad alcune forme dell'antico regime, abbia indicato ai fedeli soltanto delle soluzioni conservatrici e non abbia anche schiuso la via a degli sbocchi più democratici. Circa i cattolici italiani più attivi al tempo di Leone, si può forse osservare come lo stesso Mario G. Rossi, nel compiere una ricerca sulla sinistra popolare, abbia notato che quest'ultima, erede dell'intransigentismo di Murri e Albertario, rappresentò la nuova espressione politica di una componente costante del movimento cattolico, quella antimoderata e anticapitalistica, la cui tradizione aveva radici non meno profonde della tendenza conciliatorista. Ed a proposito dell'ambiente di curia che circondava Leone XIII e prendeva ispirazione da lui e dal suo segretario di Stato Rampolla, potremmo osservare come non vi facessero spicco i futuri collaboratori di Pio X, presentato ora come il realizzatore dei progetti leoniani, ma piuttosto uomini come Giacomo della Chiesa e Giacomo Radini Tedeschi, maestro di Angelo Roncalli, che sulla formazione e gli indirizzi anche politico-sociali dei cattolici italiani, oltre che sulle sorti religiose della Chiesa universale, gran peso certamente avrebbero avuto nel nostro secolo. Per concludere, possiamo fondatamente chiederci, io credo, se l'influenza da essi esercitata possa collocarsi esclusivamente sotto il segno della reazione illiberale e della conservazione borghese o non abbia pure seminato dei germi di liberazione anche per l'uomo d'oggi. Musik folgendes bitten. Ich habe den ersten Teil einigermaßen zusammengefasst. Der zweite Teil der Terrorreihe sagt, so, war so wichtig, das muss man fast wörtlich wiedergeben. Ich würde bitten, dass wir jetzt die Pause machen. Ecco, dass ich mich 10 Minuten lang mit Herrn Ponsi unterhalten kann und dann. Oder vielleicht ins Manuskript. Aufsätze kennen muss, um diese Kommentare zu verstehen. Jedenfalls wird Professor Lill, der immer sehr höflich und sehr gut ist, uns helfen und eine partielle Erklärung oder Verkürzung, ein Riassunto wird er uns geben. Nur für den ersten Teil. Das letzte Teil war ein bisschen zu schnell gefasst und zu schnell gesagt. Später wird man alles verstehen, weil wir die Freunde von sich, en étrique parlesien, werden angreifen. Und in der Debatte wird man verstehen, was er sagen wollte. Ja, in diesem Fall ist das Übersetzen oder Zusammenfassen tatsächlich besonders schwierig und es kann also nicht sehr viel dabei herauskommen. Machen Sie sich keine Illusionen. Herr Fonsi hat in seinem großartigen Überblick zunächst uns also über die Perioden der Erforschung des Katholizismus in Italien informiert, ausgehend immer von der Periode Leos des 13. und zurückgreifend auf seine eigenen frühen Arbeiten, sodann auf die Arbeiten von Gabriele de Rosa, Candeloro und Spadolini, wo es zu Interpretationen schon damals kam, die sehr verschieden waren, weil zum Beispiel etwa Candeloro von marxistischer Position ausgehend letztlich keinen Unterschied zwischen Katholizismus und Liberalismus gesehen hat, Spadolini dagegen entsprechend von liberaler Warte argumentiert hat, und dass dann eben eine lange Diskussion in Gang gekommen ist, die in den 50er und 60er Jahren dann zu dem großen Kongress in Bologna 1960 geführt hat, in dem die Kultur, in dem das wissenschaftliche Leben des Zeitalters Leos des 13. erforscht worden ist. Damals ist zwar auch Kritik an Leo dem 13. geübt worden, aber es ist doch ein weitgehend positives Urteil erstanden. Man hat dem Pontifikat Leos des 13. die Tendenz zugebilligt, eine partielle, recht weitgehende Öffnung zur modernen politischen, geistigen und sozialen Welt begonnen zu haben. Die weitere Diskussion ist wiederum geführt worden von Scoppola und Fonsi. Es ist also auf verschiedenen Ebenen argumentiert. Es sind die Nationalkonservativen, es ist unter den Katholiken, es ist die christliche Demokratie erforscht worden. Und es ist dabei zu einem differenzierteren Urteil über Gruppen, Untergruppen, personelle und Gruppenzusammenhänge gekommen. Und so konnte zum Beispiel die katholische Aktion, als sie ihr erstes Zentenar beging, eben einen Band herausbringen, in dem verschiedenste Tendenzen in der Katholizismusforschung und verschiedenste Tendenzen unter den Katholiken des späten 19. und frühesten 20. Jahrhunderts behandelt wurden. Dabei ist der alte klerikal-intransigente Zweig immer geringer eingeschätzt worden, wurde immer weiter eingegrenzt, ja, er wurde schließlich völlig geleugnet. Während man lange Zeit eben davon gesprochen hatte, dass der klerikale Intransigentismus den Katholizismus bestimmt hat, wurde nunmehr diese Tendenz mehr und mehr zurückgedrängt, und das wohl aus zwei Gründen. Erstens wollte man die Anfänge der katholischen Bewegung aufwerten, um ihre Modernität zu erweisen. Und zweitens wollte man andererseits die Existenz einer eigenen Oppositionsbewegung unter den Katholiken eben einfach leugnen. Die erste Tendenz versuchte eben die demokratische Bewegung aufwerten wollte. Diese erste Bewegung ging davon aus, dass es in der katholischen Kirche Italiens seit dem 18. Jahrhundert einen dauernden Widerspruch zwischen intransigenten und offenen, die Kollaboration mit anderen Kräften suchenden Katholiken gegeben hätte, dass es also eine kontinuierliche Konfrontation gegeben hätte und dass eben die Anfänge der christlichen Demokratie einfach die legitime Fortsetzung jener modernisierenden Tendenzen gewesen sei. Und der Rückgriff auf einige französische Autoren, Mayeur und Poulain, hat Fonsi dann aufgewiesen, dass dieses dualistische Schema zu vereinfachend ist und dass zum Beispiel gerade aus der intransigenten, also angeblich geschlossen reaktionären Front im Katholizismus Ansätze zur christlichen Demokratie hervorgegangen sind. Die zweite dieser Tendenzen, die also eine eigene Oppositionsrolle im Katholizismus leugnen wollte, ist offenbar entstanden aus dem Ungenügen der Unzufriedenheit über die bisherigen Studien zur Geschichte des Katholizismus, wobei sich dann das Interesse sehr schnell von Leo dem 13. auf das 20. Jahrhundert verlagert hat. Und dort ist dann gerade in diesem Teil eine neomarxistische Interpretation erstmalig aufgetreten, während etwa Candeloro, der auch Marxist war, den Plan Leos des 13., die Kirche mit dem Bürgertum zu versöhnen, herausgestellt hatten, fordern nunmehr die Kritiker strukturelle Studien über die Beziehungen zwischen katholischer Welt und ihrer jeweiligen politisch-sozial-ökonomischen Umwelt. Die jungen Kritiker, die weit über Candeloro hinausgehen, behaupten, gerade im Studium dieser ökonomischen Zusammenhänge und der ökonomischen Interessenverflechtungen die wahren Ursachen zur Erklärung des Verhaltens der Katholiken gefunden zu haben. Es ist dann diese Diskussion von Herrn Fonsi gerade am Zusammenhang der Einführung der Schutzzollgesetzgebung 1887 und der ersten Wahlbündnisse zunächst auf administrativ-kommunaler Ebene aufgewiesen worden. Er gelangte dann zur Interpretation dieses gestern schon genannten Mario Giuseppe Rossi, der nun ganz stark von dieser Priorität des wirtschaftlich-sozialen Inkontro, der wirtschaftlich-sozialen Begegnung zwischen Transigenten, also zwischen nicht-radikalen Katholiken und Liberalen ausgeht, dass sich eben die bürgerlichen Kräfte, die bürgerlichen Katholiken und die bürgerlichen Liberalen aus der ökonomischen Interessengemeinsamkeit zusammengefunden hätte und dass das Papsttum, Leo der 13., etwa die Demokratie nur ausgespielt benutzt hätte, um die Liberalen unter Druck zu setzen, dass aber gerade dagegen jene Koalition zwischen katholischen und liberalen Bürgern zustande gekommen sei, die letztlich zur Konziliation hingeführt hätte, wobei dann eine sehr vereinfachende, von mir jetzt weiter vereinfachte Kontinuität hergestellt wird, welche sagt, es ist letztlich damals das Bündnis in Gang gekommen, welches von den gemäßigten Klerikalen und ihrer Freundschaft mit den Liberalen, mit Giolitti, zu dem Bündnis der Klerikalen mit den Faschisten und dann zur Democrazia Christiana der zweiten Nachkriegszeit geführt hat. Herr Fonsi hat sich dann ausführlich auf einen Kongress in Padua gestützt, in dem also einige Autoren, Janaro und Franzina vor allen Dingen, diese Tendenz weitergeführt haben, dabei aber nun zu einer völligen Umwertung der früheren Oppositionsrolle des Katholizismus gekommen sind. Sie sagen schlicht und einfach, es hat eigentlich gar niemals einen echten Kontrast zwischen der intransigenten und der transigenten Strömung im Katholizismus gegeben. Es hat auch eigentlich nie eine echte tiefe Opposition gegen den liberalen Staat gegeben. Es wird also praktisch das, was De Rosa und Spadolini aus ganz anderen ideologischen Prämissen gesagt hatten, ins Gegenteil verkehrt, während diese früheren Autoren, ganz gleich ob katholisch oder liberal, von der Oppositionsrolle gesprochen hatten, wird nun so getan, als ob es eine solche wirkliche Opposition gar nicht gegeben hätte, weil eben die ökonomischen Interessen, das Zusammengehen der verschiedenen Strömungen und das Zusammengehen von Kirche und zunächst liberalen, dann mehr konservativen Staat gefordert hätte. Dagegen hat nun Herr Fonzi sich ausdrücklich gewehrt und hat eben darauf hingewiesen, dass bei manchen dieser Forschungen, die eben von vorher aufgestellten Prämissen ausgehen, die Quellenlage nicht hinreichend berücksichtigt wird, dass allzu vereinfachend argumentiert wird, dass man also nicht der Frage nachgeht, wieso es denn dazu gekommen ist, dass Leute, die derselben Klasse angehörten, die dieselben ökonomischen Interessen haben, sich durch Jahrzehnte aus ideologischen und politischen Gründen hart und erbittert bekämpft haben. Und dass also tatsächlich die Auseinandersetzung sowohl innerhalb der verschiedenen katholischen Gruppen wie zwischen Katholiken und liberalem italienischem Staat eben doch durch sehr lange Zeit in Italien geführt worden ist. Er sagt, man muss auf die Quellen zurückgreifen, man muss genauer periodisieren, man darf nicht, wie es diese Forscher tun, die Ergebnisse einer späteren Zeit in die frühere Zeit projizieren. Er macht also eine klare Zäsur zwischen dem späten 19. und dem 20. Jahrhundert und hält jedenfalls für das späte 19. Jahrhundert an einem großen Teil seiner früheren Interpretation fest. Er sagt, dass unter Leo dem 13. eine partielle Öffnung zur Demokratie, zur katholischen Sozialbewegung erfolgt ist, dass der Charakter dieses Pontifikats sehr komplex gewesen ist, sowohl nach den einzelnen Perioden wie nach den verschiedenen Tendenzen, die in diesem Pontifikat an der römischen Kurie vorgeherrscht haben. Er wehrt sich, wie gesagt, gegen den ökonomischen Maßstab, an dem diese Entwicklungen und Personen gemessen werden, und weist zum Schluss und lehnt zumindest etwas kritisch die Interpretation ab, die eben eine Kontinuität von Pius dem 9. zu Pius dem 12. herstellen will. Denn wie er am Schluss noch einmal deutlich sagte, geht es jenen jungen, vorwiegend von der marxistischen Seite kommenden Historikern darum, diesen Zusammenhang aufzuweisen, dass die katholische Kirche, das Papsttum im Jahrhundert dieser ultramontanen Konzentration, der Machtkonzentration des römischen Papstes, zugleich entsprechend ihrer gesamten illiberalen Tradition sich mit den jeweils konservativen Kräften verbündet hätte, dass Leo der 13. insofern keineswegs einen Modernisierungsprozess eingeleitet hätte, dass ein kontinuierlicher Prozess von Pius dem 9. zu Pius dem 12. geht und dass Leo der 13. es gewesen ist, der die Mittel, die ihm der Syllabus und das Unfehlbarkeitsdogma Pius des 9. gegeben, in die Hand gegeben hatten, die er nun systematisch angewendet hat, um das Bündnis der Kirche mit den herrschenden Kräften zu zementieren. Gegen diese zu globale Sicht hat Herr Fonzi sich zum Schluss noch einmal sehr gewehrt und hat betont, dass man im Pontifikat Leos des 13. sowohl die sozialkonservative wie auch die innovatorischen Tendenzen sehen muss, dass man nicht einfach sagen kann, dass Leo der 13. zwischen Pius dem 9. und Pius dem 10. steht und dass ihn wiederum Pius der 10. das gewesen sei, der die Pläne Leos des 13. voll realisiert hätte. Er hat in dem Zusammenhang eingehend darauf hingewiesen, dass die Männer, die um Leo den 13. standen, unter Pius dem 10. in Ungnade gefallen sind, dass Benedikt der 15., der ja wiederum ein sehr viel politischerer Papst war, eben zu diesen Männern um Leo den 13. gehört hat. Dass also insgesamt gesehen in diesem Pontifikat bei aller sozialkonservativen Richtung eben doch sehr viele innovatorische Tendenzen ausgegangen sind, die in den politischen und sozialen Katholizismus eingemündet hat. Dabei hat er zum Schluss ausdrücklich zugegeben, dass die Katholizismusforschung die ökonomischen Zusammenhänge lange vernachlässigt hat und dass eben aus diesen neuen Schriften, mögen sie noch zu sehr vereinfachen und von heutigen politischen Maximen ausgehen, dass immerhin eben die Anregung daraus ernst zu nehmen ist, den jeweiligen Zusammenhang mit der sozialen, ökonomischen, wirtschaftlichen Umwelt ernster zu nehmen und mit in die Erforschung des politischen, sozialen Katholizismus einzubeziehen. Entschuldigen Sie, das war also ganz, ganz knapp und sehr viele wichtige Gedanken sind untergegangen, aber ich hoffe wirklich, dass die dann in der Diskussion heraus. Mi scusi perché purtroppo non ho potuto menzionare moltissime parti della sua esposizione. Grazie. Io credo che giudicando appunto come, da come ho potuto, dato che ho seguito con molta attenzione la relazione di Fonzi, giudicando da quello che posso capire, e capisco per fortuna, del riassunto tedesco di Lille, sia stata veramente ottima questa esposizione, che lui si difende da questo. E quindi lo ringrazio particolarmente. E adesso apriamo la discussione e cerchiamo di essere molto brevi. Io stesso sarei tentato di chiedere la parola, ma vorrei che fosse fatto al rovescio, cioè che prima parlino i più giovani e quindi i più vecchi, dei quali sono campioni, essendo forse il più vecchio quasi. Quindi tu resti sempre giovane. Sì, beh. E quindi chi chiede la parola? Camaia. Vogliamo fare una piccola lista? Belardinelli, allora. Camaiani, Belardinelli. Poi? Weber. Ah, chiedo scusa, Weber. Beh, vogliamo fermarci qui, fare a gruppi e poi magari rispondere anche a gruppi, usare quell'espediente che è stato usato ieri sera, proposto anche ieri sera molto efficacemente da... No, no. Allora, Camaiani. Beh, faccio un intervento molto breve per dire che ho apprezzato molto la relazione di Fonzi e non sto qui a elencare tutte le cose in cui mi trovo d'accordo e a sottolineare come sia opportuna questa sua messa in guardia, diciamo, da un'interpretazione della storiografia marxista o neomarxista brutalmente economicistica, che purtroppo ha molto credito tra i giovani studiosi. Ecco, il mio intervento però vorrebbe soprattutto ricordare che anche all'interno degli storici marxisti ci sono posizioni, sfaccettature molto più varie, ecco, di quello che non potrebbe sembrare guardando soltanto alle posizioni che ci ha illustrato Fonzi, che ci sono e che certamente è giusto prendere in considerazione e dimensionare. Vorrei soltanto ricordare, per esempio, che proprio su studi storici, in replica all'articolo di Rossi, che qui è stato preso in considerazione, vi è stato un articolo molto interessante di Claudio Giovannini, un giovane studioso, tendenza marxista, che ha messo in luce come debba essere presa in considerazione soprattutto una dimensione che agisce nell'atteggiamento, nelle posizioni del mondo intransigente, dell'Ottocento, che ha molto importanza e che d'altra parte fa parte anche di un filone storiografico di grande rilievo, cioè lo studio della mentalità, che in qualche modo è condizionato, può essere messo in connessione anche con aspetti culturali, ma a tempi lunghi, per cui una certa mentalità intransigente agisce con forza propria, indipendentemente da interessi di classe in qualche modo attualizzabili e concretizzabili in epoche precise. Quindi già da questo, direi, da questo intervento di Giovannini mi pare che affiori una coscienza di una, così, di una certa pluralità di voci che proviene da questo stesso mondo. Un altro, questo non riguarda tanto il periodo che prendiamo in considerazione sull'Ottocento, ma per esempio un altro esempio per me molto significativo, se non altro per l'autorevolezza della voce, è quello di Fulvio Diaz, che riguarda soprattutto però il Settecento del despotismo illuminato. Vedo Fulvio Diaz varie volte, che appunto io definirei uno studioso di tendenza marxista, insomma è difficile poi catalogare in termini precisi, però Fulvio Diaz varie volte ha messo in guardia. Fulvio Diaz è un un marxista ortodosso. Non è marxista ortodosso, no. Però evidentemente è lo dice lui, sono un neoilluminista. Probabilmente direi questo mondo, ecco, questo mondo è più sfaccettato, no, di quello che non possa sembrare, un po' il discorso che si faceva anche per i cattolici, insomma. Molto spesso da di fuori questi cattolici vengono visti come tutto un blocco unito, insomma, ecco. Difficile poi allora definire cos'è cattolico, cos'è non cattolico. Allora anche qua è difficile definire cos'è marxista. Ecco, pure marxista, insomma, l'utilizzo in qualche modo direi che ha avuto una certa parte, insomma, una certa eredità di questo tipo di ideologia, eppure storiograficamente è uno dei più attivi nel mettere in guardia, per esempio, contro certe interpretazioni del despotismo illuminato che tendono a vederlo essenzialmente come espressione di una borghesia nascente. Penso c'è di interventi su volumi come quelli di Turi, di Sallestrini, eccetera. Per dire, ecco, che attenzione anche qua a non fare di tutto, non dire con fascio, insomma, ecco, di non cogliere la validità delle posizioni. Darf ich vielleicht für die Deutschen ganz kurz zusammenfassen? Herr Kamerian hat gesagt, dass er im Prinzip mit Herrn Fonsi insofern übereinstimmt, als teilweise eine nicht gerechtfertigte Überschätzung der Bedeutung der wirtschaftlichen Kräfte für die Erklärung des geschichtlichen Prozesses vorliegt. Man müsse doch differenzieren, auch innerhalb des Marxismus, innerhalb der marxistisch, von dem marxistischen Ansatz ausgehenden Historiker, gäbe es sehr verschiedene Positionen in Bezug auf die Fragen, die hier zur Diskussion stehen. Und er erwähnte dabei den Namen eines Claudio Giovannini, der in einer Replik, wenn ich recht, Studi storici, il numero uno del 73, der vor zwei Jahren in Studi storici gesagt habe, entwickelt habe, dass es von der Aufklärung an, vom 18. Jahrhundert her, einen durchgehenden Zug, eine Mentalität intransigente gegeben habe, also die Position, die Mentalität des Intransigenten, von der Aufklärung ins späte 19. Jahrhundert hinein. Und jetzt ist das von seinem Ansatz sehr wichtige, dass diese Mentalität und ihre Kontinuität, wenn ich das recht verstehe, nicht ökonomisch zu erklären sei, also nicht aus Klasseninteressen oder Klassenlage zu erklären sei. Habe ich Sie richtig verstanden, wie Sie es wiedergegeben haben? Und wenn das so ist, wenn diese Position vertreten wird, ist also an einem sehr wichtigen Punkt das marxistische Modell als Erklärungsversuch für eine Faktizität aufgegeben. Das ist, glaube ich, das, was Sie sagen wollten. Er hat dann noch ein zweites Beispiel angeführt, dass zwar die Erforschung des 17. Jahrhunderts, des 18. Jahrhunderts betrifft und Aufklärungsforschung betrifft und nannte doch dann einen Forscher, was dann aber durch einige Zwischenrufe auch wieder bestritten wurde, er sei also eigentlich nicht ein orthodoxer Marxist, sondern sei anders anzuordnen, bei dem ähnliche Dinge vorliegen. Ich glaube, ich brauche das aber im Einzelnen nicht zu bringen, denn ich glaube, dass an dem Beispiel von Giovannini das, was Sie sagen wollten, so klar wurde, dass für die deutschsprachigen Teilnehmer ihre Punto, glaube ich, klar geworden ist. Ich hoffe, dass ich Sie richtig, wenn ich es falsch sage, bitte, Sie können viel besser als ich das, dann korrigieren Sie mich, ja? Ausgezeichnet. Allora, il secondo, Bellardinelli. Dunque, io volevo sottolineare nel discorso del professor Ponzi l'importanza del 98 come svolta almeno parziale nel movimento cattolico, ossia il discorso che Rossi e Bianchi fanno a proposito della collaborazione sempre più evidente tra cattolici e liberali, prende sostanza secondo me specialmente dopo il 98, cioè allorché il progetto intransigente di conversione della società riceve una clamorosa smentita dalle repressioni, no? Dallo scioglimento dei comitati dell'opera, in sostanza dalla resistenza della classe dirigente liberale a questo invito alla conversione. E da quel momento che i cattolici capiscono che è necessario per cambiare la società e giungere al potere non attendere una catastrofe, no? un ritorno di catastrofe, ma inserirsi nella società a tutti i livelli, ma questo appunto per cambiare la società. In un libro recente di Leiva su appunto la crisi del 98, l'accostamento conservatore dei cattolici e liberali in questa circostanza appare come non come una svolta ma come una rivelazione, ossia in quel momento si vede chiaramente ciò che era praticamente già in luce, in preparazione, e vengono citati molti documenti di dirigenti dell'opera dei congressi in cui si cerca di dar vita a un intervento elettorale politico. Ora, secondo me, da questi documenti in cui risulta che si vuole sì un intervento elettorale, ma un intervento elettorale autonomo dei cattolici, no? È appunto quello che i liberali non vogliono, ci sono lettere di Zanardelli e documenti di Puccini che dimostrano proprio questo, cioè i liberali vorrebbero che i cattolici votassero semplicemente per candidati liberali, no? Non che intervengano direttamente. E appunto ciò che i liberali non vogliono è che la Santa Sede in quella circostanza impedisce proprio per timore di reazioni governative. Bilardi Nelli hat nicht eine Methodenfrage, sondern ein konkretes Ereignis in den Mittelpunkt seiner Erörterung gestellt. Und zwar meint er, dass die Bedeutung des Jahres 1898 als Wendepunkt für die bisherige Abstinenz der Katholiken hin zu dem Bejahen, dem Eintreten, wählen wollen, Macht nicht als etwas Gefährliches, sondern als Möglichkeit, Welt zu verändern und Welt zu gestalten, gesehen werden müsste. Und seit von da an beginne die Erörterungen, die Möglichkeiten und Verhandlungen und so fort über eine Koalition oder ein Zusammengehen von Liberalen und Katholiken, wobei die Katholiken aber eine von den Liberalen unabhängige, eine autonome Partei, also eine eigene politische Gruppe, wollen wir einmal sagen, bilden wollen, während gerade die Liberalen in diesem Augenblick das nicht möchten, sondern die Liberalen, oder sagen wir nicht die Liberalen, Liberale wären bereit, Katholiken, man muss es wohl etwas einfacher, etwas vorsichtiger zu formulieren, mit aufzunehmen, aber sie sollten dann als Liberale gewählt werden und nicht als Katholiken, während dem Katholizismus ab 98 klarer wird, hier sind Möglichkeiten, wobei das ist dann schließlich der Weg zur Beteiligung an den Wahlen. Habe ich Sie richtig? Dankeschön. Weber. Ja, wenn ich den Vortrag von Herrn Fonsi richtig verstanden habe, ist wohl eine der wesentlichen Fragen, die Sie behandelt haben, die Modernität Leos des 13. Das heißt, die Stellung Leos des 13. in der Modernisierung Italiens bzw. in der Modernisierung der katholischen Kirche. Und wenn ich dann richtig verstanden habe, die von Ihnen referierten Thesen der jüngeren marxistischen Historiker, müsste man diese Historiker auf ihre Modernisierungstheorie befragen. Und soweit ich das verstanden habe, haben diese jüngeren Marxisten eine sehr kurze, um nicht zu sagen einseitige Modernisierungstheorie, nämlich einen einfachen ökonomischen Gradualismus, der von der Feudalgesellschaft eben bis zur Industrialisierung kontinuierlich voranschreitet und der insbesondere aus der marxistischen Erbschaft die Theorie übernimmt, mehr oder weniger die implizite Theorie, der auch Marx angehangen hat, dass die Modernisierung jedes weiteren Staates eine einfache Reproduzierung des englischen Modells darstellt. Gegen diese marxistische Modernisierungstheorie haben seit etwa 15 Jahren amerikanische Sozialhistoriker und Soziologen eine umfangreiche Modernisierungsdebatte entwickelt. Ich nenne nur Namen wie eben Gerschenkorn, der hier fiel, Eisenstadt, Deutsch, Lucian Pye, Elmont. Das sind die hochprominenten Namen der amerikanischen Soziologie, die gerade in einem gewissen, sicher nicht überspitzten, aber doch in einem Gegensatz zur marxistischen Modernisierungsvorstellung, die Idee dessen erarbeitet haben, was Rüschenmeier zuletzt als Titel sogar in einem Aufsatz als partielle Modernisierung beschrieben hat. Und hier wird eben deutlich, dass insbesondere auch durch die Arbeit von Gerschenkorn, dass die Latecomers niemals dieselbe Entwicklung durchmachen wie die ersten Industrienationen. Die Folgerung ist natürlich gerade für Italien hochwichtig und wurde ja auch schon in der Romeo'schen Debatte an sich weit rezipiert. Es gibt hier aber auch Schlussfolgerungen für die Kirchengeschichte. Der historische Ort Leos des 13. ist der Augenblick, in der er den noch ganz alten dynastischen, um nicht zu sagen feudalen Vorstellungen behafteten Pius den 9. beerbte. Pius der 9., der durch 1000 Verbindungen an die Welt der Bourbonen und der Loreni und des alten Europas, der Metternichschen Ära letzten Endes gebunden war. In diese Situation herein trat Leo der 13. und sein Modernisierungsbeitrag ist an diesen historischen Ort anzusetzen. Und es geht natürlich in keiner Weise von Leo den 13. zu erwarten, überhaupt, also sozusagen den Erwartungshorizont zu eröffnen, dass dieser Papst jetzt ja gewissermaßen schon spätindustrielle postindustrielle Entwicklungen vorwegnimmt. Der Beitrag Leos des 13. konnte nur sein, und diesen Beitrag hat er voll geleistet, die Kirche aus der Welt des Feudalismus in die Welt des Bürgertums zu überführen. Jawohl. Und insofern musste er versuchen, mit den bürgerlichen Schichten zu einer Einigung zu kommen. Und wenn dieser Beitrag geleistet war, dann hat er auch die Leistung, die in seiner Zeit möglich und die in Italien seiner Zeit möglich war, erbracht. Daraus ergeben sich dann einige Schlussfolgerungen, noch weitere Probleme, wenn man den Modernisierungsprozess Italiens nicht als unlinearen, einfache Kopie anderer Modernisierungen sieht, dass natürlich auch die Konzentration an der Kurie, die also von anderen jüngeren Historikern so stark betont wird, hinfällig wird. Leo der 13. selbst ist das deutlichste Beispiel, dass es in der Kurie verschiedene Auffassungen über Modernität und über die Stellung der Kirche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab. Die Kurie war niemals jene Rocca Forta Chiusa, als die sie dargestellt wird. Es wird immer von der Chiusa-Mentalità und der Ristrettezza und das trifft auf sehr viele Kardinäle zu. Wir können namentlich eine ganze Reihe, das geht von Patrizi über Katharini, wie diese Kanäle alle heißen, das ist vielleicht in der Kurie sogar oft die Majorität gewesen, möglicherweise sogar meistens. Es gab aber immer, und hier muss ich Herrn Professor Fonzi etwas widersprechen. Ich verstehe auf den Standpunkt, dass es tatsächlich die kontinuierliche Konfrontation zwischen in irgendeiner Weise modernen und in irgendeiner Weise konservativen Prälaten, Kirchenoberhäuptern, Bischöfen, auch Laien, insbesondere aber Kardinälen gab. Es ist dies meines Erachtens seit der Debatte um den Jesuitenorden im 18. Jahrhundert nie mehr abgerissen. Soweit ich, möglicherweise würde man sogar zum Beispiel zurückgehen, bis hin zur Frage um den Jansenismus. Ich weiß es nicht, im 17. Jahrhundert verlassen mich meine Kenntnisse. Im 18. Jahrhundert ist es sicher und ich glaube, die Kontinuität der Debatte um die Aufhebung des Jesuitenordens bis zu Giovanni Ventitré ist eine kontinuierliche Linie. Wobei es völlig klar ist, dass die moderne und die konservative Seite jeweils in sich wandeln. Das ist klar, das ist, es wird im Jahre 1860 nicht dieselbe Meinung vertreten wie im Jahr 1860. Aber die prinzipielle Konfrontation zwischen diesen beiden Richtungen scheint mir schon gegeben. Das wäre Darf ich noch eine Frage an das knüpfen, ob ich Sie richtig verstanden habe? Wenn Sie die beiden Strömungen mit moderne und konservative bezeichnen, ist das eine glückliche... Ja, wir wollen es anders formulieren. Ich bin da für jede Formulierung dankbar. Es ist eben einfach, die einen wissen... Zerrante oder... Zerrante und Politikanti und Reformisti... Und jedenfalls gibt... Gut, Wer würde jetzt das, was Herr Weber gesagt hat, würden Sie es übersetzen, Herr Weber? Dunque, la questione essenziale che si pone per Weber dopo la conferenza di Fonzi è quella del carattere moderno o meno moderno di Leone XIII, in quanto Leone XIII abbia veramente contribuito a modernizzare sia l'Italia sia la Chiesa Cattolica. E poi si domanda se questi storici giovani neomarxisti non sono troppo semplificanti perché stanno applicando, come gli pare, una sola teoria di modernizzazione, cioè quella semplice marxista che parla di un processo continuo che deve andare dalla società feudale a quella industriale e da quella teoria che dice che in ogni nazione si deve ripetere più o meno lo stesso processo di modernizzazione come è avvenuto in Inghilterra. Weber ricorda che contro questa teoria troppo semplicistica si sta facendo soprattutto negli Stati Uniti da più di 10 anni una lunga discussione sul problema della modernizzazione, del modernismo, ricorda i lavori di Gershenkron e altri che sono già stati menzionati da Fonzi, che parlano di una modernizzazione parziale, cioè gli stati, i latecomers, quelli che arrivano tardi, non fanno tutto lo stesso sviluppo che hanno fatto le nazioni già industrializzate. E qui, dice Weber, bisogna cercare la posizione storica, la collocazione storica di Leone XIII. Lui arrivava al potere in una curia che aveva ereditato da Pio IX i legami stretti con il mondo passato della feudalità, delle monarchie. Lui poteva incominciare solo in questa situazione. Il suo contributo per la modernizzazione della Chiesa e con ciò forse anche delle strutture del cattolicesimo italiano non potevano essere altro che trasportare, condurre la Chiesa dalla mentalità, dal mondo feudale nel mondo borghese. E proprio questa trasformazione nel mondo borghese l'ha fatto lui e in ciò, dice Weber, c'è il grande lato positivo del pontificato di Leone XIII. Poi è tornato ancora sul problema della concentrazione continua nella curia romana, non crede che la mentalità curiale sia stata sempre così ristretta, come si dice molto spesso, ma crede un po' contro Fonzi che alla curia romana, almeno dal Settecento, esisteva sempre una certa confrontazione fra un gruppo più conservatore e più riformista e che questa confrontazione si trova soprattutto nel collegio dei cardinali, anche nel pontificato di Leone XIII. Avrebbe chiesto la parola Raniello adesso. Grazie. Ja, ich habe noch zwei Dinge. Einmal die Frage von Herrn Weber über die Modernität oder Nichtmodernität Leos des 13. darf man nicht nur von seinem von der italienischen Geschichte her sehen, sondern wir werden heute Nachmittag darauf und übermorgen darauf auch noch einmal von der deutschen Geschichte herkommen. wo das dann sehr anders aussehen wird. Der zweite Punkt, das ist eigentlich nur eine Ihnen vielleicht banal scheinende Erinnerung in Bezug auf das Problem des kurialen Zentralismus. Bei allem Zentralismus darf man nicht die Verkehrs- und Nachrichtenmittel vergessen, die vorhanden waren. Zentralismus im Zeitalter des Telefons ist etwas anderes als Zentralismus ohne Telefon. Und Zentralismus im Zeitalter des Düsenjets ist etwas anders als Zentralismus im Zeitalter der Eisenbahn oder im Zeitalter der Voreisenbahn. Das klingt sehr banal, wird aber häufig vergessen. Die Kurie konnte, wenn man den Nuntius oder irgendjemanden nicht sofort antelefonieren wollte, in vielen Fällen gar nicht so zentral sein, wie sie das später mit neuen technischen Mitteln konnte. Das soll man wenn man die einzelnen Pontifikate in der einzelnen Zeit beurteilt, nicht vergessen. Sulla modernità di Leone XIII, per comprendere la modernità di Leone XIII, è necessario di vedere attraverso lo studio della situazione della Germania cattolica altri aspetti che faranno capire meglio che cosa vuol dire questa modernità o meno. Quanto al problema del centralismo nella Chiesa, certo il centralismo cambia aspetto quando è fornito di nuovi mezzi tecnici. Sembra banale, ma pure è importante dire che il centralismo in un periodo in cui si può telefonare al nunzio invece di scrivergli, o il centralismo in un momento in cui ci sono delle ferrovie e permettono rapide comunicazioni, più rapide comunicazioni ed incontri, cambia un po' di natura. Se posso inserirmi anch'io, poiché Röpken ha violato la regola della vecchiaia, in questo momento farei con estrema rapidità, direi due parole, o meglio direi tre parole che sono state a mio parere omesse dal caro amico Fonzi nella parte della sua trattazione che riguarda il problema della continuità. Io sono anche contrario alla teoria della continuità come è presentata da quella frazione economicistica della scuola marxista, vero? Che tende a un'interpretazione troppo economicistica, ma sarei per sottolineare altri aspetti che mi paiono essenziali per capire quello che di continuità c'è nella storia della Chiesa moderna. Io faccio notare che di controriforma Fonzi non ha mai parlato. Ora, dalla controriforma, cioè dalla lotta contro la ribellione di una parte della cristianità occidentale e dalla lotta contro una certa tendenza alla secolarizzazione, da questo momento è nata una reazione difensiva ma anche aggressiva della Chiesa, che è l'aspetto deteriore di quello che si chiama controriforma. C'è anche un aspetto positivo, Iadina ha detto Gegenreformation oder katholische Reformation. Sì, c'è anche la cattolica Reformation, ma non spiaccia a Iadina e agli allievi di Iadina di sentirsi dire che c'è anche una vera Gegenreformation con tutto il suo peso di negatività. Ora, io per me vedo di spizze der Gegenreformation, il Gipfel finale, lo vedo proprio in Pio X. Direi che dal 500 si parte in salita e si arriva a una vetta che è Pio X, nel carattere repressivo, utilizzando le tecniche moderne della delazione rapida con telefoni e con cose, appunto, come diceva proprio adesso Röpken, questo che mi ha fatto venire in mente che dovevo parlare subito dopo di lui. Poi, ugualmente, l'ultramontanesimo, cioè la reazione contro la formazione e l'autonomia degli stati moderni, che effettivamente era un'autonomia pericolosa per la Chiesa, spezzava l'unità del mondo medievale, no? La reductio ad unum sognata dai papi medievali, contro l'autonomia degli stati moderni, è nato quello che si chiamò poi nell'Ottocento ultramontanesimo in Francia soprattutto, se no non avrebbe senso. Ora, questo ultramontanismo, non dimentichiamolo, si è perfezionato in una versione democratica, eine demokratische Übersetzung des Ultramontanismus gab es schon mit Lamennais. Sì, sì. E questo è importante, questo non si può dimenticare. Questa versione democratica, ma non liberale, perché Lamennais ha avuto una fase liberale, una fase sua, dann ist er autoritär geworden. Questa versione autoritaria dell'ultramontanesimo ha influenzato Leone XIII e fa capire gli aspetti negativi. Poi, se noi parliamo di chiese di Stato e della lotta fra chiesa e Stato così acuta nell'età moderna, dobbiamo anche studiare non solo il Klassenbewusstsein, eccetera, ma anche il Kirchen- und Staatsbewusstsein, cioè la coscienza della Chiesa, la coscienza dello Stato, come si evolve, come si elabora nei secoli moderni. Bene. E l'urto, sempre più acuto fra questi due Bewusstsein, fra queste due coscienze. Ora è chiaro che da parte laica viene rivendicata una sovranità, un'autonomia, che viene contestata da Leone XIII più che da altri papi, con il recupero della teoria, come si chiamava, la sovranità indiretta della Chiesa, no? Una volta lo sapevo in latino, potestas indiretta, non mi veniva, potestas indiretta in temporalibus. E questo effettivamente è uno degli aspetti più imbarazzanti della concezione, della visuale di Leone XIII. Voglio aggiungere ancora, commentando un intervento molto utile di Weber, che Leone XIII, essendo egli stesso appartenendo a un mondo di, vorrei dire, quello che Roden, uno storico tedesco, ha chiamato di classiche diplomatie, in fondo lo si inquadra molto bene nella classe di diplomatie composta e resa possibile da una internazionale aristocratica che io conosco molto bene, vorrei dire persino per tradizioni familiari, se mi permettete. Questa classica diplomazia aristocratica, questo internazionalismo aristocratico era quello a cui poteva arrivare Leone XIII. Con la borghesia poteva firmare un compromesso storico, parola molto di moda oggi in Italia, ma non entrarci dentro. Questo internazionalismo aristocratico era quello a cui poteva arrivare Leone XIII. Con la borghesia poteva firmare un compromesso storico, parola molto di moda oggi in Italia, ma non entrarci dentro, perché un aristocratico difficilmente entrerà in una mentalità borghese, e in questo mi permetto di contraddire anche a quanto è stato detto di anzi. Dunque, benissimo questa continuità del dibattito endoecclesiastico fra progressisti, fra gli stessi cardinali, progressisti o conservatori, ma con dei limiti, almeno fino a Leone XIII, che poi magari potranno cadere nell'Ottocento, ma con Leone XIII non potevano cadere. Quanto al contrasto sui gesuiti nel Settecento, è un contrasto estremamente significativo, diceva bene Weber, è il momento in cui si porta all'estremo, con la soppressione dei gesuiti, la lotta fra coloro che accondiscendono nell'ambito della classe dirigente ecclesiastica all'autonomia dello Stato, e coloro che invece vogliono contrapporre a tutti i vari gallicani, giuseppinisti, eccetera, una difesa della soprasovranità, quasi feudale, la suzeraineté della curia e del papa. Er lehne die Kontinuitätstheorie, wenn man sie ökonomisch interpretiert. Aber in einer anderen Hinsicht sehe er doch Kontinuität. Und zwar meint er, dass die Gegenreformation als Kampf gegen Säkularisierung eigentlich ihre Spitze erst im Pius X. erreicht hat. Und Gegenreformation sei immer zugleich offensiv und defensiv. Und das eigentliche Problem sei, dass der Ultramontanismus, erinnert Lamennais, und dass die demokratische Bewegung im Ultramontanismus nur teilweise mit der freiheitlichen Bewegung des Liberalismus konform geht, dass Ultramontanismus eine Antwort auf die Frage ist, ist der Staat der Kirche übergeordnet oder die Kirche dem Staat? Also praktisch auf die Frage, ob es eine Souveränität gibt oder ob es mehrere Souveränitäten gibt. Und in diesem Punkt meint er, wenn das so ist, dann müssen wir nicht nur die Klassengegensätze oder die ökonomischen Verhältnisse studieren, sondern wir müssen das jeweilige Bewusstsein von der Kirche, vom Staat und die Antwort auf die Fragen, wer ist hier, sind das nebengeordnete Gewalten oder sind es übergeordnete Gewalten und wer ist übergeordnet. Und der Punkt, in dem sich der Katholizismus vom Laizismus des 18. auch des 19. Jahrhunderts unterschied, war die Frage, ob der Staat der Kirche übergeordnet sei oder die Kirche dem Staat. In einem weiteren Punkt hat er dann Zweifel daran geäußert, ob man, wie es Herr Weber getan habe, Leo den 13., der aus der Welt der aristokratisch geprägten internationalen Diplomatie herkam, ob ein solcher Mensch, und er sagt über Aristokraten, habe er selbst sehr viele Anschauung und Erfahrung, ob das überhaupt möglich wäre, dass ein solcher wirklich in die Welt des Bürgertums eintritt, also dass die bürgerliche Welt als solche übernimmt. Auch bei der Aufhebung der Jesuiten sei es letztlich um die Frage gegangen, soll der Staat oder soll die Kirche die oberste, die Souveränität, würde man sagen, innehaben. Ausgezeichnet, danke. Allora ci sarebbe Tranello, poi ho chiesto la parola a Lil e anche Vandrus. Allora rispondo adesso questo primo ciclo. Ma dovrebbe rispondere anche un po' il relatore, sì, forse. Forse meglio adesso. Non so come se il mio gruppo, no? Sì. Rispondi tu. Sì. Allora, appunto, anzitutto ringrazio Cabaiani che mi ha invitato, diciamo così, ad riconoscere la complessità del mondo marxista, diciamo, le diverse sfumature, quindi rinnovo le scuse per appunto un certo semplicismo e schematismo che, al quale mi dovevo attenere, ossia ho cercato di limitarmi a quelle voci che mi sembravano più caratteristiche, più accentuate, più seguite. Quindi siccome visto che questo articolo di Rossi è largamente citato, si fa adesso riferimento come una, diciamo così, voce nuova, un capofila, ho citato Rossi, gli stessi interventi Giovannini sono degli interventi sulla relazione, la relazione di Rossi, come del resto l'intervento di Ballini. Quindi indubbiamente ci possono essere delle posizioni, diciamo così, più sfumate, delle posizioni che danno importanza almeno immediata alle sovrastrutture, che poi influiscono anche sulle strutture, quindi in definitiva e concretamente si può essere d'accordo nel concreto lavoro con degli studiosi di ispirazione marxista, ma mi pare che quello che caratterizza soprattutto certe recentissime tendenze direi che sia proprio questo, direi questi eccessi, queste chiusure nei confronti appunto già di quegli studiosi come Condoloro e altro che appunto pensavano che... Fausto, ti interrompo un pochino su questo, se è possibile, sì. Familiarmente, cioè tu parlavi, hai avuto un accenno molto, credo, interessante, che non è venuto fuori nella discussione, cioè che questi che tu hai chiamato neomarxisti sono quasi tutti di formazione cattolica. No, non ho detto quasi tutti, ho detto parecchi. Ora... Ma gli esempi di Rossi e di Miccoli sono abbastanza indicativi. Certo, e si può aggiungere Ballini e si può aggiungere... Allora, Ballini, invece di neomarxisti, parlare di paleomarxisti, e questo risolverebbe forse qualche cosa. Ossia ne ho convertiti anche dei caratteri, no, però sì, io volevo dire che si presentano adesso, no, pubblicano sulle riviste, no, ufficialmente così, ossia, il fatto è che anche Rossi, insomma, l'articolo di Rossi è pubblicato come articolo, mentre invece quelli di Giovanni Bernini sono un po' come una tribuna libera di discussione, insomma, come a un certo punto sulla stessa rivista c'è stato un intervento di Passerelle, in quanto che la rivista accoglie le discussioni di non ortodossi, diciamo, di uomini lontani, di tutta l'ammirazione. Quindi perciò, ma riconosco benissimo che c'è una complessità che si possono rifare al marxismo e anche degli studiosi che sono sensibili al peso e all'importanza di fattori culturali, ideologici, religiosi, eccetera, e che quindi danno un quadro più sfumato, come appunto fece Giovanni. Circa quello che ha detto Belardinelli, appunto io senz'altro ho sempre pensato all'importanza centrale del 1898. Belardinelli ha detto che il 98 porta i cattolici a inserirsi nello Stato italiano, a pensare che sia il momento di inserirsi nello Stato italiano come unica via. Ecco, vorrei semmai precisare che se questo è l'orientamento di molti, no, dei più moderati, anche di un Meta, non è però quello di altri, penso a Burri, penso alla critica sociale, che invece da quell'occasione traggono lo spunto per un'opposizione ancora più forte allo Stato liberale, allo Stato borghese, per un sbocco che non è certo reazionario, ma è di democratico. Cultura sociale, hai detto per un lato, critica. Cultura sociale, grazie. E sono invece pienamente d'accordo per quanto riguarda l'interpretazione che ha dato Levra in un libro che peraltro è piuttosto importante per la ricchezza della documentazione, delle letture fatte da Levra, ma che nella parte mia non è condividibile, completamente per, accettabile anche per certi giudizi, ma non nell'impostazione generale e per alcune valutazioni, per esempio di quei documenti del 1898, soprattutto di quel famoso documento paganuzziano, ossia Paganuzzi propone l'intervento dei cattolici proprio per impedire il trionfo della soluzione conservatrice nazionale e liberale, no? Ossia l'intervento deve avvenire guidato dall'opera, no? Deve avvenire quindi nell'ambito di una soluzione propriamente cattolica e non liberale, transigente. E ringrazio infine particolarmente Weber, e sì, anch'io condivido indubbiamente questo, cioè, penso anch'io, appunto, è stato chiaro che dalla mia relazione che c'è stato un eccessivo schematismo da parte di questi giovani studiosi che si rifanno appunto a uno schema di sviluppo considerato come avente valore assoluto universale, direi, no? E quindi che ci sono modernizzazioni parziali. Ora, riguardo però a questa modernità di Leone XIII, appunto io non penso che Leone XIII abbia aperto la via ad una sola soluzione, ossia mi sembra la via ad una sola, unica soluzione. Ecco, ossia mi sembra che i legami, direi, all'antico regime, diciamo, no? Di Leone XIII, no? Siano soprattutto di stile, di forma, di educazione, questo legame all'aristocrazia, è indubbio, no? Quindi mi pare che Passerelle abbia un po' sviluppato quell'accento che c'era in Aubert, è un uomo che viene dalla nobiltà, che ha una mentalità di antico regime, che ha attaccato a certe forme. Aubert ricorda che Leone XIII si è molto commosso quando è stato chiamato Sire, mi pare, da Guglielmo di Germania, no? Ecco, ora direi che però questo fa parte del del folklore, della forma, diciamo così, dell'educazione di Leone XIII, ma che Leone XIII si caratterizzi proprio perché, direi, non pensa ad una soluzione reazionaria una restaurazione del Medioevo, dell'antico regime, ma indica, secondo me, delle soluzioni che portano all'abbandono di ogni solidarietà col vecchio regime, con gli assolutismi, con gli aristocraticismi, col feudalesimo, come si dice. Il problema, secondo me, è quello: se Leone XIII imponga a tutti i cattolici una sola soluzione, ossia semplicemente quello dell'accettazione della politica e della difesa della borghesia, di questa nuova classe che ha raggiunto il potere. Secondo me, non solo in Francia, no? Quando appunto invitati i cattolici ad abbandonare queste solidarietà col passato, ma anche in Italia, queste sono delle soluzioni che condanna ed esclude. Le sue simpatie che ha potuto avere per transigenti o per intransigenti escludono tutte una soluzione reazionaria in senso assolutistico aristocratico. Alcuni cardinali, in sostanza, in parte secondo me interpretano la sua linea, come il cardinale San Felice a Napoli, escludono solo quella, poi a un certo punto appoggiano transigenti o intransigenti, purché rifiutano il passato, purché rifiutano la soluzione reazionaria. Ora, secondo me, nel pontificato di Leone XIII non c'è esclusivamente la soluzione conservatrice, ma sono indicate delle possibilità e delle vie per altre soluzioni democratiche. Il punto fermo è semplicemente il rifiuto del passato dell'antico regime e di una volontà di ritorno a quel passato. Riguardo alla curia romana, forse non sono stato chiaro, e poi appunto il problema della continuità è più vasto, ma limitandoci alla curia, io non intendevo dire che né che la curia romana sia stata sempre chiusa, ma neanche che la curia romana sia stata sempre compatta, ossia questi contrasti tra zelanti, no, diciamo così, modernizzanti, ci sono stati nel Settecento, ci sono stati nei secoli successivi, e proprio io direi che proprio perché nella curia romana queste differenze di correnti esistono, penso che la continuità fra Leone XIII, tra l'indirizzo di Leone XIII e quello di Pio X non sia pieno. Penso che al tempo di Leone XIII si siano formati dei dirigenti di curia che non hanno approvato la linea di Pio X, che pensavano ad altre, non solo Rampolla, quelli che ho indicato della Chiesa, e Radini Tedeschi, che mi sembra molto significativo, no? Studiato da Casella, ma penso per esempio a un Agliardi, no? Agliardi, che in sostanza è un po' l'erede sia del primo che del secondo periodo di Leone XIII, no? Perché è stato così per una, diciamo così, adesione alla borghesia, no? Quando era un fatto di modernità all'inizio del pontificato di Leone XIII, è stato quindi per una soluzione, diciamo così, liberale, vero? E poi invece diventa fautore di una soluzione democratica, no? E per esempio, ecco, c'è quella famosa lettera, no, a difesa di Lueger, eccetera. Io non sono competente e quindi non so se il ritratto di Vandusk di Lueger non sia stato un po' troppo pesante. Certamente Agliardi vedeva un po' positivamente gli sviluppi democratici negli austriaci e negli italiani, diventato grande protettore appunto di burri e di soluzioni democratiche e autonome da parte dei cattolici italiani. Mi sembra che Agliardi possa essere considerato come un elemento significativo nel mondo della curia italiana in questo senso. E quindi indubbiamente l'accentramento assume delle forme nuove e degli strumenti nuovi a seconda dei tempi. Ora, riguardo alle osservazioni di Passerelle, anche qui vorrei chiarire, no? Anche lì forse mi sono spiegato male, ossia io non ho inteso certamente negare il principio di continuità della storia, in generale e in particolare, no? Ossia, senza dubbio ritengo che il principio della continuità è uno dei principi essenziali dello svolgimento storico, dello svolgimento umano e quindi anche della storia della Chiesa, della storia del mondo cattolico italiano, della curia romana. Però quello che io intendevo discutere è il ridurre tutto alla permanenza di certi caratteri, ossia secondo me ci sono delle novità e noi dobbiamo tener conto di quelle novità, ossia rimane molto della controriforma, avevo accennato a questa caratteristica un po' di tutta la storia moderna, ma soprattutto di quell'ultimo secolo, verso l'accentramento curialistico, eccetera, che effettivamente al tempo di Pio X assume queste forme così, così pesanti, così caratteristiche. Ma io mi domandavo se tutta questa storia contiene soltanto questo, se in particolare nell'età di Leone XIII c'è soltanto la preparazione di questo chiuso curialismo repressivo, eccetera, o non ci siano anche i germi di qualche cos'altro. E il riferimento, per esempio, al radini tedeschi, eccetera, mi sembra di un certo interesse. Ossia, radini tedeschi è uno dei giovani monsignori, diciamo così, di curia più vicino a Rampolla e a Leone XIII, è un po' l'interprete della curia romana presso il movimento cattolico, presso il laicato cattolico intransigente. Radini tedeschi, quindi, deve essere considerato come un personaggio importante, centrale di quel periodo. Ora, Radini tedeschi è il maestro di Angelo Roncalli, basta leggere il giornale dell'anno e si vede quale peso ha avuto, diciamo, il movimento cattolico e Radini tedeschi nella sua formazione, nei suoi orientamenti. Quindi non intendo certamente negare che molto della controriforma, direi, dell'età costantiniana, eccetera, ci sia al tempo di Leone XIII, voglio soltanto dire che mi sembra che ci sia dell'altro e dell'altro di una certa importanza. Così appunto questo anche per quanto riguarda l'eredità di La Mennesia. Oh, e riguardo sia la coscienza dello Stato, sul quale ha insistito anche Poulain, sul piano teorico appunto questo atteggiamento di Leone XIII, ovvero contro questo valore, diciamo così, dello Stato, eccetera, però concretamente c'è anche il riconoscimento dello Stato moderno, per esempio sul piano sociale, questa fiducia in sostanza dello Stato moderno al quale si danno dei compiti, costituisce un qualche cosa che mi sembra non significhi questa negazione assoluta legata appunto a vecchie posizioni del significato positivo che può avere lo Stato moderno, quindi l'accettazione dello Stato moderno e direi della società moderna, anche se, come dico, ha dei germi anche per la sua critica, per il suo superamento. Sì, appunto, questo sia per quello che diceva Weber, che diceva Passerelle, circa i contrasti della curia romana, certamente hanno un'importanza centrale, direi però che non sempre appunto quel dualismo, no? Abbia quel significato, mi sembra appunto, Passerelle diceva, ci sono coloro che si battono per l'autonomia dello Stato, no? Che sono vicini ai principi, no? E quelli invece che si battono per l'ingerenza della Chiesa nello Stato, per il dominio della Chiesa sullo Stato. Ora mi sembra che i zelanti del Settecento, anche di un po' successiva, non si battono tanto e solo per un predominio della Chiesa sullo Stato, per l'ingerenza della Chiesa nello Stato, ma anche per evitare l'ingerenza degli stati della Chiesa. Ossia, questi zelanti vogliono evitare che la curia sia tutta formata dai rappresentanti e gli strumenti dei principi, i quali facevano le spie dei principi e servivano degli interessi temporali di tutti, anziché gli interessi spirituali o magari anche ecclesiastici, istituzionali della Chiesa. Quindi la lotta c'è, ma direi che non c'è soltanto quello. Quindi, proprio per rinnovare insomma un po' la mia critica a un dualismo troppo rigido. Ja, hier wurde also auf die verschiedensten Interventi geantwortet. Herrn Kamajani wird zugegeben, dass es in der neomarxistischen und vorwiegend in der ökonomistischen Tendenz dieser marxistischen Schule auch andere Stimmen gibt. Aber Herr Fonsi meint, dass also dieser Rossi, auf den er sich vorwiegend bezogen hat, eben als einer der repräsentativsten gilt, am meisten zitiert wird. Daher die Auseinandersetzung mit ihm. Zu Herrn Bellardinelli wird die inneritalienische Bedeutung des Jahres 1898 voll anerkannt. Damals beginnt tatsächlich der Prozess der Integration der Katholiken, aber es sind nicht alle, die damals diesen Prozess beginnen. Ein Teil zieht sich geradezu in eine demokratische Opposition gegen den liberalen Staat zurück, in welchen die anderen sich integrieren wollen. Zu Weber ist Herr Fonsi weitgehend einverstanden, vor allen Dingen was eben die schematisierende Betrachtungsweise der Neomarxisten angeht. Differenzierend äußert sich Herr Fonsi insofern, als Leo wohl nicht nur den Weg zu einer einzigen und sei es auch zu der bürgerlichen Lösung gebracht hätte. Leo sei an die alte Welt der Feudalen, an die alte Feudalwelt mehr im Stil gebunden gewesen, aber er hätte nicht an eine Restauration gedacht, sich aber bei der Modernisierung auch nicht auf eine Lösung festgelegt, sondern die Wege zu verschiedenen Lösungen politischer und sozialer Probleme geöffnet. Die Kurie ist gewiss nicht immer kompakt gewesen. Es hat eben dort unterschiedliche Strömungen gegeben, daher aber auch die vorher genannten Unterschiede etwa zwischen Leo dem 13. und Pius dem 10. Es gibt nicht diese vollständige Kontinuität der Entwicklung, sondern es gibt eben verschiedene Gruppierungen, für die dann beispielsweise der Kardinal Algardi genannt wurde, der zunächst einer mehr liberalen, dann einer mehr demokratischen Lösung zuneigte und so zum Beispiel die christlich-sozialen Österreichs und Lueger eben gestützt, sehr stark unterstützt hat. Dass der Zentralismus neue Formen technischen Zeitalter angenommen hat, steht außer Zweifel. Was Herrn Pastorin angeht, so soll keineswegs das Prinzip historischer Kontinuitäten geleugnet werden. Es wird aber auch davor gewarnt, die Fortdauer bestimmter Denkprinzipien zu sehr zu betonen, auch innerhalb der römischen Kurie, wo gewiss eine Tendenz der Gegenreformation erhalten geblieben ist, haben sich eben trotzdem neue Tendenzen entwickelt. Und hier kehrt er wiederum auf Leo den 13. zurück, unter dem eben auch Männer wie della Chiesa und jener spätere Bischof Radini Tedeschi, der wiederum der Lehrer Angelo Roncalis gewesen ist, seine Formation eben an dieser Kurie Leos des 13. erhalten haben. Immerhin habe Leo der 13. den modernen Staat partiell anerkannt, zum Beispiel in der sozialen Frage, und die Zelanti, die intransigente Gruppe, habe nicht nur die Unabhängigkeit der Kirche vom Staat, sondern generell eine scharfe Trennung zwischen Kirche und Staat vollzogen und darüber auch die Autonomie der Staaten anerkannt. So, abbiamo forse ancora tempo. Francesco, tu in fondo parli da domani. Sì, vuoi togliermi la parola? No, no. Allora rinunzio anche io. Attenzione, non c'era anche io. Il quarto d'ora. Volevo toccare molto brevemente, spero di rispettare questa premessa che sempre si fa, due punti della relazione di... Il primo punto riguarda quel brevissimo saggio pubblicato da Gianni Soffri su studi storici, che è un po' rivista del marxismo ufficiale, potremmo dire, italiano, l'espressione dell'Istituto Gramsci, questo forse va detto anche per informare gli amici tedeschi. Un intervento che, se non ricordo male, era sotto forma di recensione a poco più, e che ha certamente una sua importanza perché rappresenta forse la prima espressione di una reazione, diciamo così, di fronte alla produzione storiografica relativa al movimento cattolico, nel senso di denunciare ciò che si era prodotto fino allora in quel campo come una storiografia separata, come lo stesso Ponzi ha ricordato. Cioè il fatto che si insistesse troppo, secondo Sofri, a studiare il movimento cattolico separatamente, a sé, come fenomeno a sé, e senza metterlo troppo in relazione con la più ampia, complessa storia d'Italia, perlomeno. Ora, la presentazione che Fonzi ha fatto di quelle pagine di Sofri, che sono state poi richiamate esplicitamente dallo stesso Rossi all'inizio del suo saggio, di cui oggi abbiamo ampiamente parlato e ancora temo saremo costretti a parlare domani, essendo io investito della responsabilità di parlare della storiografia sul clerico moderati, quel saggio di Gianni Sofri, dicevo, la presentazione che Fonzi ne ha fatto mi è sembrato un pochino parziale in questo senso. Se non sbaglio, Fonzi ha avvisato in quel saggio una specie di fastidio nei riguardi delle componenti, degli aspetti di storia religiosa, della spiritualità e, se vogliamo, anche della cultura cattolica, quasi che tendesse Sofri a dire che in effetti il movimento cattolico, soprattutto nel Novecento, non aveva nulla a che vedere con questo tipo di preoccupazioni. Ora, può darsi che nell'impeto polemico che certamente c'è in quel saggio di Sofri vi siano delle esagerazioni, così come mi sembra esagerato in quell'articolo, o non sufficientemente svolto, un tentativo di distinguere meglio tra tendenze all'interno della storiografia sul movimento cattolico che pure andavano fatte. La denuncia era troppo generica, la denuncia che Sofri faceva. Tuttavia, ciò che mi sembra resti valido come indicazione di quel saggio era una specie di ribellione, diciamo pure, che risultava da quello stesso saggio nei riguardi di un giustificazionismo, diciamo così, che veniva e viene ancora, seppur oggi meno, usato nei riguardi dei comportamenti pratici, politici, economici, se vogliamo, dei uomini forti appartenenti al movimento cattolico in nome della loro fede religiosa o del loro essere, per esempio, spiritualmente animati da buone intenzioni. Essenzialmente mi pare che Sofri intendesse dire e manifestare il fastidio nei riguardi di chi, considerando per esempio il comportamento dei gruppi bancari cattolici, che non si differenziava certo e che apparteneva, come ovvio, ai comportamenti generali delle forze economiche capitalistiche dominanti in quel periodo, tendeva a differenziarli da altri gruppi dicendo: ma questi avevano buone intenzioni, le loro erano buoni cristiani in fondo. Ecco, quindi non mi pare che Sofri negasse la presenza, la rilevanza anche di un'ispirazione religioso, se vogliamo, ma affermava che questa non poteva essere storicamente rilevante nel momento in cui i comportamenti pratici, la presenza politica, l'efficienza, l'efficacia economica e sociale di questi gruppi in effetti non si differenziava da quelli di altri gruppi non cattolici. Quindi la necessità di giudicare i partiti, per esempio, o i gruppi sociali o le banche secondo quello che realmente operavano e facevano e non secondo le intenzioni, ammesso che queste fossero buone. Inoltre quello stesso saggio richiamava un altro punto però che è stato effettivamente trascurato da coloro che se ne sono serviti, cioè se ricordo bene Rogiani Sofri mentre richiamava la necessità di innestare la storia del movimento cattolico più decisamente nella storia politica economica italiana, d'altra parte richiamava anche l'opportunità di innestare meglio la storia del movimento cattolico nella più generale storia della Chiesa. Erano un po', si muoveva, se non sbaglio, su questa che Giovannini poi ha definito con immagine felice le due parallele, vero? Una storia italiana che desse rilievo al movimento cattolico e una storia della Chiesa al quale il movimento, rispetto alla quale storia della Chiesa il movimento cattolico non può e non deve essere considerato come diviso, separato, nettamente estraneo, eccetera. Il secondo punto che volevo brevissimamente toccare riguarda ancora il 98. Ora, sia nell'intervento di Belardinelli, sia nella risposta di Fonzi, mi pare tuttavia che sia rimasto sottaciuto, eccessivamente in ombra, un aspetto che mi sembra ancora decisivo, cioè che la svolta del 98, su cui Fonzi certamente con grande ragione ha richiamato fin dall'inizio l'attenzione, però non può evidentemente non essere inserita nel fatto che il 98 rappresenta, a parte i fasci siciliani, la prima reale ondata rivoluzionaria, pseudo-rivoluzionaria, non so come definirla, ma comunque con una notevole portata eversiva che si manifesta in Italia anche in conseguenza delle vicende economiche dell'epoca, su cui evidentemente non possiamo qui soffermarci. Cioè, il 98 dimostra gli aspetti apparentemente eversivi che venivano rinfacciati al movimento cattolico, intransigente soprattutto, esclusivamente, dalla classe politica liberale, erano sostanzialmente nominali. Sia che si consideri il 98 come il primo passo verso le alleanze clerico-moderate, sia che lo si consideri, come ora Fonzi ci ha ricordato richiamandosi al documento Paganuzzi, come il tentativo dei cattolici di intervenire per la prima volta nella vita politica, in ogni caso dimostra che lo schema, lo slogan di cui il movimento cattolico talvolta aveva fatto uso, lasciamo pure che i socialisti abbattano lo Stato liberale perché poi saremo noi a raccoglierne l'eredità, era uno slogan fittizio, nominale. Nel momento in cui il rischio di rivoluzione sociale si presenta, a questo punto i cattolici con la loro forza organizzativa non possono non intervenire. Sicché succede singolarmente questo scambio delle parti che i democratici cristiani come Murri traggono proprio dal 98 la conseguenza di accentuare il loro astensionismo, perché in un certo modo essi sono più coerenti con le loro premesse. Cioè Murri sembra credere veramente che tocchi ai socialisti abbattere lo Stato liberale e tocchi ai cattolici recuperare, riorganizzare lo Stato dopo quello che potremmo definire il purgatorio socialista. Mentre gli altri, che sono certamente i più, quelli che hanno più forza nel movimento cattolico, ritengono che questo non sia, che di fronte al rischio della rivoluzione i cattolici non possono restare estranei con, o con le mani in mano. Quindi io insisterei molto su questo aspetto dell'affiorare della, di una reale rivoluzione, non di una rivoluzione puramente così enunciata o presentata come possibile, ma in effetti in Italia mai manifestata, si tratta di moti certamente rilevanti sui fasci siciliani, ma qui ci ritornerebbe il discorso al 94, a Crispi, e allora andremo molto lontano e sì. Mi fermo senz'altro qui. Paniello ha zwei Dinge, zu zwei Punkten Stellung genommen. Das eine ist, dass er sich mit einem, er hat zunächst einmal für die Nicht-Italiener daran erinnert, dass die Studi Storici, die das Hausorgan der marxistischen Geschichtsschreibung sei. Und dann, dann hat er gesagt, dass Rossi wesentlich doch auf Sofri bereits zurückgehe, ihn auch auf den ersten Seiten rezitiere und das bei Sofri, bei allen Übertreibungen, von denen er sich hier nicht mitmachen würde und bei allen Ungleichgewichtigkeiten, Sofri doch eine wichtige und auch positive Bedeutung habe, nämlich, dass er die Geschichte der katholischen, des italienischen Katholizismus aus der isolierten Betrachtung des Katholizismus selbst heraus und in die gesamtitalienische Geschichte dieser Zeit einzubetten versucht hat. Dabei leugne Sofri, soweit Traniello sich erinnern bzw. ihn verstehen wollen, trotz aller Übertreibung Sofris, leugne ja nicht, dass die katholischen Bankiers, die er als Beispiel bringt, in ihrem religiösen Leben gute Katholiken gewesen sein könnten, sondern sage, die guten Katholiken, wenn sie Bankiers sind, sind Bankiers. Wie andere Bankiers auch, weil Bankiers Bankiers sind. Entschuldigung, wenn ich das so kurz mache. Sehr klar, sehr klar. Er sprach, baut hier das Verb nestare, also das Einnisten, des Katholizismus, wenn ich Sie richtig verstanden habe, also den Katholizismus in die gesamte italienische Umwelt der Zeit hineinbringen. Punkt 2 war das Jahr... Einpflanzen, nicht? Das zweite war eigentlich der gleiche Ansatz, nun bezogen auf das Jahr 1898, und auch hier, das dürfe man nicht so isoliert sehen, sondern müsse es im Komplex, vor dem Hintergrund dessen, was sich damals in Italien tat. Der eine Slogan habe geheißen, lass die Sozialisten den liberalen Staat zerschlagen, wir werden dann nach dem sozialistischen Fegefeuer, das wir ertragen müssen, werden wir die Erben sein. Aber Revolution sei damals nicht nur eine theoretische Parole gewesen, sondern sei eine konkrete Gefahr gewesen, habe auch als konkrete Gefahr verstanden werden können. Und das habe diejenigen, die dann zu einer Zusammenarbeit mit liberalen Kräften drängten, unter diesem Eindruck hätten sie eben gesagt, wir können nicht die anderen etwas zerschlagen lassen und hoffen, dass wir es erben, sondern wir müssen jetzt praktisch sorgen, dass die Revolution nicht stattfindet, dass aber andererseits der Staat und die Gesellschaft sich ändert. Ist das ungefähr so? Ich habe es nicht wörtlich übersetzt, aber ich glaube, es ist... Ja, sehr gut. Ecco, allora io appunto condivido, anzi ringrazio Traniello, direi, perché per certi aspetti l'integrazione, ossia ha detto quello che io non avevo potuto dire, Sofri l'ho citato semplicemente per quel giudizio. Il suo articolo indubbiamente era più ricco, però non credo ingiustificato il fatto di aver citato solo quello, anche altri hanno citato solo quello, perché... dice Traniello, importante quel saggio in quanto che aveva criticato la produzione sul movimento cattolico come una storiografia separata. Ecco, non era neanche quella una novità, perché quella discussione tra Manacorda e Passerelle, molto precedente, era anch'essa un invito proprio a considerare movimenti studiati isolatamente, in modo settoriale, come si diceva, movimento cattolico, movimento operaio socialista, a vederli invece come componenti di una sola storia italiana. Direi che l'osservazione, il rimprovero che muoveva Sofri allora coloro che si occupavano del movimento cattolico italiano era giusto, ma era estensibile direi a tutta la storia, perché anche per quanto riguarda i movimenti marxisti e socialisti la situazione era simile. Direi che i cattolici hanno portato un certo contributo proprio per inserire la componente cattolica nella storia generale. Di solito i marxisti e i comunisti, quando studiavano problemi di storia italiana, ignoravano del tutto la componente cattolica. Il problema era solo di un rapporto tra socialisti e classe dirigente liberale. Negli ultimi anni si sono fatti indubbiamente dei passi da parte di tutti. Basta citare l'ultimo volume di Candeloro, della storia dell'Italia moderna, il settimo volume. Sì, appunto, c'è quell'insofferenza, vero? Sì, un attimo. Questo disgusto per un giustificazionismo, vero? Parlando delle intenzioni religiose, delle ispirazioni religiose, si mirava a giustificare i comportamenti anche economici e politici dei cattolici. Ora, condividibile questo disgusto, se non che non ritengo che sia del tutto irrilevante, no, il fatto che uomini che operavano nella politica eccetera avessero questo fatto, alcuni nomi appunto, ma se ne potrebbero fare tanti altri, e io credo che questa preoccupazione, ispirazione religiosa non sia storicamente del tutto irrilevante, abbia qualche peso, come dicevo, questo uso per De Gasperi, ma anche per Dossetti e per tanti altri. E l'ultimo punto, dice nel saggio di Sofri si chiedeva non solo l'inserimento nella storia politica italiana ma anche nella storia della Chiesa, ma proprio perché questi erano dei motivi direi largamente condivisi anche dagli altri, non caratterizzavano quel saggio, mentre lo caratterizzava quell'affermazione, che indubbiamente era posta in una forma di domanda, no? Di dubbio, ma implicita era anche una risposta molto chiara quando dice che nulla hanno a che fare con la storia religiosa queste attività politiche ed economiche. Circa il 98, indubbiamente il 98 è al centro di una crisi generale dello Stato italiano e della società italiana, che investe anche il mondo cattolico, ossia il 98 è all'interno di quella crisi che ho detto, no, più o meno del decennio 1894-1904. È una crisi che mette in discussione, insomma, che pone poi fine alla contrapposizione di transigenti e intransigenti. Quindi siamo all'interno di questa crisi, di fronte a questo movimento rivoluzionario, indubbiamente la maggioranza dei cattolici non assume degli atteggiamenti rivoluzionari. Quegli atteggiamenti sono presi da una minoranza. Ora, storicamente però, mi sembra che questa minoranza, che non è composta soltanto da Murri, ma anche da Sturzo, eccetera, abbia un certo significato, ossia si tratta di giovani intransigenti che credevano veramente in quelle idee di rinnovamento democratico, ossia è un po' la matrice di certi svolgimenti del nostro secolo che non sono riconducibili a una semplice linea di appoggio alla conservazione borghese. Lille dice ancora brevissimamente qualcosa. Rinuncia. Rinuncia addirittura a Brenunzio. Im Interesse der Lebensqualität zum Mittagessen. Scusate, mi tocca ancora il dovere di lodare colui che ha finanziato questa nostra riunione, che si chiama Grigolli, insomma il filo rosso è questo, vero? Grigolli, presidente della provincia autonoma di Trento, e che non c'è, e dobbiamo fargli un applauso per forza o per amore.